Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Buona domenica e benvenuti a Voice Anatomy, il programma che settimana dopo settimana ci consente di viaggiare con l'immaginazione attraverso tutti i mondi che si possono costruire ascoltando una voce. Oggi, 1° maggio, e in occasione della festa dei lavoratori, abbiamo deciso di preparare una puntata speciale riproponendovi alcuni degli ospiti che abbiamo avuto dall'inizio del nostro viaggio insieme fino ad oggi. Ed essendo il nostro un programma dedicato appunto alla voce, non potevamo fare a meno di iniziare da chi la voce la utilizza quotidianamente per professione, per dare vita a personaggi che altrimenti non avremmo modo di conoscere così appieno, i doppiatori. Ascoltiamo quindi soltanto alcuni tra i direttori del doppiaggio e doppiatori che si sono alternati ai microfoni di Voice Anatomy, da Giuppi Izzo ad Alessandro Rossi, passando per Rossella Cerbo e Francesco Pezzulli. Buon ascolto. Lei è l'ospite del doppiaggio, è un'attrice, è una splendida donna, ovviamente nata a Roma, non dico quando, non dico né perché, è una doppiatrice, è un'attrice, è una direttrice di doppiaggio, anche la mamma anche di Nike, Francesca, è figlia del doppiatore Renato. Grande Renato, non dico il cognome, ma tanto fra un po' lo saprete. Sorella delle doppiatrici Simona, Fiamma e Rossella, attualmente dirige la società di doppiaggio La Pumais, ex Gruppo 30, assieme alla sorella e alla grande mamma Liliana D'Amico. Oggi è con noi una grandissima professionista del mondo del doppiaggio italiano, nonché una delle voci più belle, come ho detto, del nostro panorama artistico, signori e signori, Giuppi Izzo. Ciao, ma che meravigliosa presentazione. Adesso speriamo di essere all'altezza, grazie. No, non c'è l'applauso perché Alessandro non me lo mette l'applauso, ma l'applauso, eccolo! Grazie. Rendiamola viva questa. Questa è una trasmissione che dovrebbe diventare live a questo punto, direttamente. È difficile la domenica perché le curve sono tutte occupate negli stadi. Prima però di sentire la sua viva voce, come è già sentita adesso, un piccolo contributo della sua esperienza artistica. Vai! Senti, ma tu e Cosmo vi siete messi d'accordo? Perché sembra che tu faccia di tutto per farmi sentire una perfetta idiota ogni volta che ci incontriamo. E non ce n'è alcun bisogno, credimi. Io mi sento già una perfetta idiota per la maggior parte del tempo, in ogni caso, con o senza palo dei pompieri. Ti assicuro che non ti annoierai, perché io ti ho prenotato un bel trattamento completo, quindi farai i massaggi, la sauna, i check-up con i medici ogni giorno. E non ti manca il lavoro? Mi manca mia moglie. Non hai mai saputo niente di mia madre. Ti amava e quindi ti perdonava. Qualunque cosa accadesse, voleva stare con te. Ma chi eri tu? Chi? Ebbene, lei, come abbiamo detto, è Giuppi Izzo. Era tratto, grazie. Il primo contributo era il diario di Bridget Jones, yes, René Zellweger, e l'altro uno era uno dei film dove mi sono divertita di più, e l'altro è Youth. La giovinezza. Bellissimo. Era Rachel Weisz, come Rachel Weisz. Weisz, hai visto? Ha fatto la prima Rachel brutta Weisz. Figura della Rachel Weisz. Grazie, bellissimo. Ma grazie a te, perché queste sono, la voce emoziona, la voce è evocativa. La radio credo che sia il veicolo migliore per la voce, come un buon libro anche, è un bellissimo veicolo. Mio papà diceva, Renato Izzo, il grande Renato, diceva, e lo dico sempre, che la voce è la colonna sonora della vita, e un po' è vero. Perché viviamo con la nostra voce. E quando ci lavori, per esempio, a me non mi piace assolutamente riascoltarmi. Ancora adesso, nonostante l'abitudine? No. Perché all'inizio può essere, perché nessuno accetta. Questo è un minimo comune multiplo di questa trasmissione. Molte persone telefonano per dire: non amo la mia voce, ma perché non sono abituati ad ascoltarla? No, non è che non amo la mia voce, però se sento delle cose mi piacerebbe sempre rifarle. Quindi a volte non mi piaccio. Invece come direttrice sei molto più tranquilla, meno sì, esigente. Perché esigi ma riconosci immediatamente. Mi piace molto lavorare con i colleghi, perché so la fatica che si fa al leggio, e quindi mi piace lavorare, dirigere, stare dietro. Mi diverte molto. Oggi è tematica la trasmissione, si parla di sessualità e di sensualità nella voce, ovviamente, perché il fisico lo mettiamo da parte da questo punto di vista, ma tu diciamo che riesci a collegare la tua voce al tuo fisico. Giuppi, la tua famiglia è immersa nell'arte da sempre, principalmente nel doppiaggio. Da bambina avevi già la consapevolezza che avresti intrapreso questo mestiere, o volevi fare tutt'altro? Ma vivere con la mia famiglia, con tutte queste voci meravigliose, con mio padre che lo diciamo sempre, tutte le mie sorelle, da Rossella a Fiamma a Simona, che noi dovevamo avere anche delle intonazioni a tavola, perché diciamo noi non potevamo parlare male, noi dovevamo dire mi passi lo zucchero, perché se si diventava aggressivi, mi passi lo zucchero, non si poteva dire. Papà diceva sempre devi dire mi passi lo zucchero, che poi è zucchero, no? È zucchero. Nella quindi il modo di parlare. Poi io ho iniziato da piccola, perché io ho fatto il mio primo film, che era Goodbye amore mio, con Richard Dreyfuss, e avevo 7 anni. Ed era un gioco, mio padre me l'ha fatto vivere sempre come un gioco, anche perché eravamo bambini. Certo che vivere in una famiglia, poi alla fine ci sfogavamo a casa, perché io parlo spesso romanaccio, appunto, non sto attenta alla dizione nella mia vita, e ho i miei figli, tra cui Alessandro parla molto molto romanaccio, però diciamo che poi all'eggio ti resetti e immediatamente esce fuori l'italiano. Sì, e poi tu hai fatto sempre della tua voce un dono sensuale, volente o nolente, cioè anche ironico, perché Bridget Jones è assolutamente grande ironia, consapevole. Ma c'è sempre quella profonda, ognuno di noi nella sua voce c'è quell'inclinazione. Io quando faccio certe cose, anche faccio il cattivo, dice Pino sembri il suo innamorato, la stai per uccidere, cioè c'è certo. Comunque quell'alone che caratterizza la propria voce, e tu nella voce ce l'hai questa dimensionalità? Ma abbastanza consapevole, sì. L'ho usata con i miei figli quando li voglio convincere di qualcosa, e le intonazioni, la voce, no dai non uscire stasera, non uscire, però non e così funziona, esce, amore mio, se con tu i miei dici, figli non funziona. Se tu dici a tuo marito così, mio marito a volte funziona. No, funziona sempre, se tu dici a questo spesso, a tuo marito. Spesso funziona. Guardate come può cambiare una voce, di la stessa cosa in maniera più asettica, più normale, no, più stasera fredda. Non uscire, per favore, ecco. No, ti prego, stasera non uscire. Ecco, a volte l'ho usata. Ma io sto già in pigiama, ma forse pure senza il pigiama a questo punto. Visto il tema, a questo punto. L'orario non se lo consente di spingerci oltre, ma insomma abbiamo parlato tutto e dobbiamo parlare di tutto. La voce è veramente un veicolo pazzesco da questo punto di vista. L'importante è che sia naturale, che sia vera. E che venga dal cuore, che non sia costruita. Riesci tu a staccare? Io faccio finta sempre di essere ovviamente una persona che non fa parte di questo ambiente, perché mi metto dalla parte dei radioascoltatori, cioè con grande curiosità poi un ascoltatore può dire, ma riesci a scindere la tua vita professionale, le intenzioni alla quotidianità? Cioè... Sì, assolutamente sì. Però l'importante è che la voce venga dall'emozione, dal cuore, che non sia costruita. Cioè, per costruita intendo questa cosa, ascoltarsi e piacersi, ma avere comunque una sana inconsapevolezza, perché se costruiamo qualcosa poi si sente che è finta. Insomma, prima dicevamo di Bridget Jones, no? E dicevamo anche che il fatto che comunque esce fuori poi la profondità della voce. Tu l'hai impacciata a livello di sessualità, di comunicazione, no? Non verbale e quella verbale. Tu ti riconosci, mi sa, in questo personaggio mi in qualche modo? Mi riconosco nel prendersi in giro, diciamo. Bridget è un personaggio che un po', secondo me, ogni donna ha dentro. E mi sono divertita perché l'attrice era talmente brava che quando, tu lo sai meglio di me, quando doppi un attore bravo devi cercare di stare al passo con lui, quindi stargli dietro, quindi sono stata molto aiutata. Chi dirigeva? Mi dirigeva Fiamma, con cui mi sono molto divertita, ma anche ho faticato, perché poi quando fai dei ruoli comici non è che arrivi tutte le mattine divertito, quindi devi pure ricercarle delle cose. Senti, però a me piace comunque lavorare con le mie sorelle, devo dire. Ma sono brava, anche a me piace lavorare con le tue sorelle. Mi diverto già loro. Qua poi Fiamma sì, ci ha divertito so. Molto con la lirica. Senti Diego e basta, dopo dirò chi Diego sei. Diego e basta si chiama. La nostra, la vocalità della nostra amica Giupizzo, macello. Com'è? Ma non è un macello, ciao a tutti intanto. Non salutare perché non sei ancora qui. Non sono ancora qui. Non sei ancora qui. Sono un'entità eterea che valuta che profondamente la bene. Voce. È una voce bellissima, una voce che ha colori, bello. Tanti colori. E la voce che ha colori è una voce che apre l'anima. La voce che apre l'anima è una voce che passa. Quindi io non vedo una persona, io lo so ti ho di fronte, certo. Ma non vedo una persona, sento una voce e dalla voce riesco a intuire quello che tu vuoi dire al di là delle parole che stai dicendo. Credo che questo sia per una doppiatrice è la cosa più bellissimo. Bella del mondo. È la prima volta che siamo mi testimoni bello. Della nascita di un amore qui all'interno. Non dovevo parlare con il marito. No, non mi rovinare. No, vabbè, siete tutte e due, in effetti. Scusa, io poi non conosco tua moglie, ma conosco suo marito. fa pure male. Però a parte questo. No, bello. Per cui bello, Diego e basta, per ora questa è la definizione. Una Diego voce... e basta dice che sentire una voce di questo tipo non smetterebbe mai, e mi piacerebbe sentirla in tante, tante declinazioni diverse. Grazie. Dalla persona arrabbiata alla persona che ha bisogno di affetto, alla persona che si sveglia da un sogno, a una persona che scuote un figlio. Mi piacerebbe molto. Grazie. Ci sentiamo fra pochissimo. Voice and... Voice Anatomy. Bentornati a Voice Anatomy in questa puntata speciale nella quale abbiamo deciso di riproporvi alcuni degli ospiti che abbiamo avuto dall'inizio del nostro viaggio insieme fino ad oggi. E io ho detto all'inizio che questa trasmissione prende un po' il titolo assonante con Grey's Anatomy, quella, il protagonista. Meraviglia. Che tu doppi da quanti anni ormai? 12. Dodicesima stagione. Dodicesima stagione, equivalgono a 14 anni. Dove ho avuto la fortuna di recitare le parole di Shonda Rhimes, che è una grandissima sceneggiatrice. Perché poi sì. Grace è quello che si dice, è quello che viene fuori dalla personalità di ognuno. Quindi ogni volta quando ho le voci narranti imparo qualcosa. Quanto quindi... ti riconosci là dentro? Ma riconoscermi, io questa cosa del oppure riconoscersi quanto hai dato, dentro i personaggi, quanto hai dato e quanto invece hai ricevuto da quel ho personaggio? Ho ricevuto tantissimo e ho dato quello che ho sentito, diciamo, ho cercato di tener fede e non tradire mai quello che hanno fatto loro, perché loro hanno fatto un lavoro meraviglioso, anche la mia attrice Ellen Pompeo. Ha anche lei dentro la voce qualcosa che mi emoziona moltissimo in originale, quindi ogni volta che sento l'inglese prendo delle cose e alcune me le prendo proprio e, anche le frasi no. Sì, anche le frasi alcune me le prendo proprio e comunque mi emoziona. Quindi mi piace lavorare su un progetto anche dove c'è una bella scrittura, perché poi se tu dici delle cose belle vengono anche meglio, diventano anche, se dici delle cose banali invece il fatto di avere questa originalità mi emoziona anche a me, quindi io nel mio lavoro riesco ancora a emozionarmi, non sempre però. Uno dovrebbe sempre ricominciare da capo quello che fa, ogni giorno, amare quello che si fa. Ne parlavamo moltissimo con Diego e basta durante una pausa di pranzo, che l'emozione... Mi sento fortunata in questo, nel senso che mi piace fare quello che faccio, quindi... Bene, poi c'è un'altra curiosità che volevo togliermi a proposito sempre di voce. Hai diretto e doppiato anche nella protagonista di Una mamma per amica. Sì. No? È una mamma buffa, incasinata e divertente. Tu invece che mamma sei? Ma io non lo so. Io non so che tipo di madre sono. Lo chiedo spesso ai miei figli. Cioè io gli chiedo, ma io che madre sono stata per voi? E loro mi sembrano abbastanza soddisfatti, però non mi so vedere io da fuori. Penso, diciamo che se mi dovessi dare un voto, 7,5, 8. Non è male. E poi un'altra piccola curiosità, poi torniamo sulla voce e la sessualità. Nella serie Agente Speciale Sue Thomas, sì, tu doppi una sordomuta. Sì. E qual è stata la difficoltà nell'approccio di questo lavoro? Qui è difficile, Diego, e basta. Siccome lei era veramente così, ho cercato di avere una grande attenzione a come lei parlava in originale. È stato molto, molto difficile. Però diciamo che ho provato a muovere la bocca in quel modo, cioè più che l'originale guardavo molto le sue labbra per capire la difficoltà che aveva lei nel parlare. Eh sì, perché essendo sorda una persona non si ascolta, perché diventa, esatto, muta per quel motivo. Quella è stata una delle poche volte in cui più che ascoltare guardavo proprio l'espressione del suo viso e il fatto di voler comunicare, quindi... diciamo ho fatto questo lavoro su di me guardando lei. E oggi si parla, comunque stiamo parlando della relazione fra voce e sesso, e a vederti e a sentirti insomma tu potresti essere l'emblema. Beh, di questa puntata. Ritieni la tua voce seducente però? Allora, forse sì, però, perché sono sincera, però non sempre, cioè vado molto a periodi, ci sono dei periodi in cui zero e dei periodi in cui, ma perché anch'io mi sento meglio, così esatto, seducente, sensuale, certo, sexy. Però ci sono dei periodi che non mi sento così e forse non lo è nemmeno la mia voce. Sicuramente vado a passo fisico con me e voce stessa. Camminano, Diego? Il giorno sì, oggi allora direi. Oggi il giorno sì, meno assolutamente. Male. Qui voce e corpo camminano paralleli, assolutamente. Almeno emozioni. Assolutamente, proprio parlando prima dei sordomuti, sì, giustamente, tu hai realizzato un doppiaggio non sul canale verbale, ma sul canale paraverbale. Hai studiato tutto quello che era l'atteggiamento fisico, è per sì, quello che sei diventata molto credibile, perché tu non hai voluto cercare di imitare come parla un sordomuto, no, hai cercato di esserlo probabilmente. Sì, sì, brava, assolutamente. Questo è quello che fa. Io, per esempio, mi ricordo che mio papà mi fece fare una scena di una ragazza non vedente e mi disse di chiudere gli occhi per ricreare certe emozioni. Corretto, che correttissimo. Bello. Allora, senti, ti è capitato nel tuo lavoro ovviamente di utilizzare una voce estremamente sensuale, no? Magari in una bella scena di sesso ci sta, e poi però è lì, è un anismo perché stai da solo davanti al regio. Quando stai da solo è dura. Baciandoti le mani. Esatto, quello ti baci dobbiamo le fare. Mani, respiri da solo, e quindi quando sei, diciamo... da noi si dice in colonna separata, cioè quindi quando sei al regio da solo, fare delle scene d'amore da soli è... Sì, noi uomini... Alla fine la fai un po' con te stesso. Sì, ma noi uomini siamo molto abituati a queste situazioni. Ma ecco, non è la giornata. Senti, come si può tecnicamente impostare una voce affinché diventi un richiamo sessuale nel cinema come nella vita? Insomma, un piccolo tutorial che ogni tanto Voice Anatomy mi dà. Diciamo che lì è tutta, che domanda imbarazzante, diciamo che è tutta parte dell'immaginazione di una persona, non si può, sì, non effetti, c'è una regola, quella è appunto, esce te stessa, deve essere un'emozione, deve c'è infatti essere... una vergogna quando c'è, sono delle scene di sesso al leggio, soprattutto quando poi magari hai dietro colleghi che commentano quindi a noi capita spesso, però diciamo che un po' ci si vergogna, ma c'è molta aria quando si fa una scena di sesso, no? Un po', beh, secondo me, certo, non c'è mai lo strillo, vabbè, cioè, no, diciamo che cioè si mette un po' d'aria, sì, ma che cos'è questa cosa dell'aria? Non no, so, l'aria. Aria nel, aria nel respiro, nel senso non si timbra troppo nella voce, ma si dipende, va sui toni. Dipende dalla scena, perché a volte è tutto senza aria. Io questa cosa dell'aria non mi ci riconosco. Forse molto, perché io mi do tante arie. Vabbè, non è quello. Senti, come tutti i colleghi che si sono alternati a questi microfoni, ognuno ha portato una lettura, altre volte l'abbiamo data noi. Una lettura per far capire quanto la voce possa essere evocativa da questo punto di vista. L'altra settimana, a parte il grande amico Frank Merenda, che saluto, che è stato sempre un ospite straordinario e ci accompagnerà ancora come l'amico Diego e basta, e si è esibito nella lettura delle istruzioni della lavatrice. Fantastico. E per far capire come una voce possa essere così evocativa da raccontare tutt'altro. Adesso non so cosa ti ha dato Alessia Navarro, un'altra una cosa autrici, piena di S, che io ho questa S un po' strana. Ma vorremmo sempre il tema della trasmissione, che è la sensualità, ovviamente. Ok, io vuoi ci una do... musica di sottofondo, Alessandro? Pronti. Ce l'abbiamo, grazie Ale, grazie Gaia, come sempre, di essere lì pronta. Il sessuolo volta subito pagina e riprende immediatamente la sua splendida marcia che lo ha portato a veleggiare in pianta stabile nella parte alta della classifica. 3 punti sofferti, ma tutto sommato meritati, quelli che gli emiliani conquistano ai danni di una Lazio disordinata. Ma perché st'articolo? E senza mai la concentrazione giusta. Ecco, la differenza la fa proprio la testa. Il Sassuolo è in partita sin dall'inizio. Sa anche soffrire quando serve e sfrutta le occasioni che gli capitano. La Lazio tiene molta palla, ma si perde troppo nel palleggio e finalizza poco. Dio, mai una sconfitta fu così sensuale. Vai avanti, ti prego. Qualche errore lo fa anche il Sassuolo, ma i padroni di casa non sbagliano le cose importanti. Nella ripresa Pioli prova a sferzare la squadra, inserendo un altro attaccante. Se fossi entrato tu negli spogliatoi a fine del primo tempo sarebbe cambiato. Ma non cambia la falsa riga purtroppo dell'incontro. E il Sassuolo, cerco di dire tutte le S perfette perché in realtà ce l'ho bruttissimo, che già nella prima frazione aveva sfruttato male almeno 3 invitanti contropiede, non perdona. Ci sarebbe ancora tutto il tempo per completare la rimonta, ma la Lazio si squaglia. Yeah. Anzi, è il Sassuolo a sfiorare la terza rete e i padroni di casa neppure incappano in altre distrazioni. È fantastico. Thank you. Yeah. È bellissimo, non lo sapevo. Il Sassuolo, Sassuolo. Ecco, questo è proprio il tipico esempio di cosa è Voice Anatomy da questo punto di vista. Voice Anatomy. Prima di presentare l'ospite al mio fianco, voglio farvi sentire la sua voce in una magica interpretazione. Attenzione, eh. Io non so chi siete. Non so che cosa volete. Se cercate un riscatto, sappiate che non possiedo denaro. Però io possiedo delle capacità molto particolari che ho acquisito durante la mia lunga carriera, che fanno di me un incubo per gente come voi. Se lasciate andare mia figlia, la storia finisce qui. Non verrò a cercarvi, non vi darò la caccia. Ma se non lo farete, io vi cercherò, vi troverò. Io vi ucciderò. Questo è quello che potrebbe capitarvi oggi se cambiate stazione radio. Lui è più buono, molto più buono di questo racconto, ed è Alessandro Rossi. Benvenuto a Voice Anatomy a Radio 24, Alessandro. Grazie, grazie a voi tantissimo, ciao a tutti. Questa voce leggerissima che si specchia all'interno di quel microfono, pensate, sta parlando da circa 200 metri dal microfono, eppure la voce entra, penetra fortissimamente fino ad arrivare al vostro cuore. Allora, il mio amico Alessandro Rossi in realtà è Ruggero Alessandro Rossi. Tu sì, sei... il nome intero è quello. Il nome intero, possiamo dire quando sei nato, certo che sì. Sì, tranquillamente. È il 12 ottobre del 1955, è un attore, doppiatore, dialoghista, direttore di doppiaggio, e voi ovviamente avete imparato ad amarlo attraverso dei grandissimi del cinema mondiale, ed è anche un grandissimo direttore. Ho avuto il piacere di condividere con lui ultimamente in un film straordinario che è il caso Spotlight, che ha vinto anche come miglior film, non certo per la mia interpretazione, ma magari per la direzione di Alessandro. Qualcosa no, è successo l'Oscar di più. No, però, l'Oscar no, ma qualcosa è successo. Allora, caro Alessandro, quando è nata questa passione? Te lo ricordi? Sì, sì, come no. Beh, la passione è nata... L'amore è cominciato con il teatro. È cominciato... Un ragazzo, ho iniziato col teatro intorno ai 16-17 anni a interessarmene, a sentir crescere la passione. Fino a che intorno ai 20 anni sono riuscito a debuttare in teatro con una compagnia che era molto bella a Roma in quegli anni. Quegli anni erano gli anni delle compagnie, delle cooperative, delle prime grandi compagnie cittadine, piene di un entusiasmo incredibile. Quella con cui ho iniziato era quella del Politecnico Teatro di Roma, che è stato teatro di ricerca degli anni 70. È stata una fucina veramente importante. Tu pensa che veramente una grandissima generazione di attori è passata da lì. I primi spettacoli che abbiamo fatto insieme, c'era Castellitto, c'era Santospago, c'era Coltorti, una bella generazione, c'era Cosolo, c'era Venturiello. Abbiamo recitato insieme e tutti stavamo iniziando e tutti abbiamo più o meno iniziato lì. Una delle ultime grandi infornate di grandi professionisti, quando ancora il mestiere si sceglieva perché si amava profondamente. Sì. E quindi sono andato avanti facendo soltanto il teatro per circa 8-9 anni. A quell'epoca chi faceva teatro spesso capitava anche in Via Asiago, perché in Via Asiago si faceva Radio Rai, cose, radiodrammi. Si faceva, sì, radiodrammi, sceneggiati, eccetera, eccetera. E una volta sono capitato lì e c'era un'attrice lì, si chiamava Vittoria Febbi. Una giovane attrice. Una grandissima. Sì, grandissima, speriamo di avere attrice presto qui attraverso questi microfoni. Lo spero. Eravamo lì e lei mi ha detto, dice, ma scusa, ma tu con quella voce perché non provi a fare il doppiaggio? E ho detto, magari Vittoria, perché no? e ho iniziato a seguire lei, sono andato lì e poi da lì le cose col doppiaggio hanno iniziato ad andare incredibilmente bene praticamente da subito. E quindi il primo vagito tuo è stato uè o è stato uè? Perché hanno chiamato un esorcista subito dopo. Da piccolo io lo so che tu non ci credi, ma ero assolutamente angelico e come tutti i bambini. Eri come tutti gli altri. Assolutamente. Non era prigioniera una voce di un corpo da bambino che tuttora hai, perché sei altissimo, assomigli moltissimo alla tua voce, ma buono, ho sempre detto, sei un gigante buono, per cui hai cominciato prima il teatro, come sempre noi diciamo, non puoi non cominciare da lì, non puoi non essere un attore prima, nonostante il tuo cognome sia Rossi, poi non ha nulla a che vedere con la famiglia Rossi di Emanuela, Riccardo, anche se sono dei cari amici, eccetera. Sì, siamo tutti amici, ma no, io sono figlio solo della mia passione. Qualcuno in famiglia c'era che amava quest'arte oppure è sdirazzato immediatamente? No. Assolutamente, è una cosa mia. C'era mio padre che era un grande appassionato di opera lirica e io sono un grande appassionato di opera lirica. L'opera lirica è qualcosa che è molto vicino al teatro. Che basso che saresti. Hai mai cantato in un'opera? Allora, io ho un grosso problema. Ecco. Cantavo benissimo. Per cui, siccome avevo una grandissima passione per il teatro e cantare mi arrivava, era di una naturalezza infinita, mi accontentavo di quello. Ah, ti sei accontentato? Sì, per cui cantavo bene. Ci abbiamo acquistato un grandissimo attore, purtroppo, un grande doppiatore, un grande direttore, ma abbiamo perso un probabile grande basso. Sì, perché basso, poi me ne so, basso, voglio, beh, assolutamente basso, perché poi a 50 anni una volta ho lo sfizio di andare da un maestro di canto lirico, ci sono andato e questo si è messo le mani nei capelli. Ti eri perso. Tu sei un pazzo. Nel senso, perché sei bravo e non hai dato fondo. Perché hai... Potevi essere qualcosa di veramente molto... Perché molto credo, che lo so, così. Il tenore, il soprano, il mezzo, eccetera, eccetera, si può trovare, comunque si può imparare. Ma io ho inciso comunque... Però il basso così naturale... Esatto. Io ho inciso comunque... Non è né da alcol né da sigarette, è da studio, attenzione, non confondete la voce, ne parlavamo prima, una voce bassa perché uno magari eccede in certe situazioni, no, quella diventa una voce rotta, diventa una voce completamente diversa, mentre Alessandro riesce a passare da una voce più leggera a una più pesante e più importante. Qui dicevi, scusa, no, Alessandro. Dicevo che essendo poi io ho un passato anche da musicista e ho lavorato con orchestre, con che cosa con suoni oggi? Io suonavo la chitarra classica fino a che... Quante cose scopro dei miei colleghi attraverso questo però microfono? Però ho studiato musica, eccetera, quindi... E ho collaborato con orchestre e con compositori contemporanei, per cui ho fatto delle incisioni e anche lì ho cantato. Insomma, c'è dentro di me questa cosa. Il grande Alessandro Rossi, con la sua potenza vocale, rende mitici attori incredibili. Alessandro, potresti chiedere con la tua voce megalitica al buon Pino di riattivare nuovamente la voice box da fan del mitico Arni? Te ne sarei infinitamente grato. Un abbraccio, Dino. Arni chi è? Vedi, io ti sto dicendo prima che i nostri ascoltatori sono molto più attenti di noi. Arni credo che sia Arnold. Arnold? Penso di sì. Credo che intendesse Arnold. Conosco altri Arni. E allora io un momento di Terminator lo ascolterei. Voglio i tuoi abiti, stivali e motocicletta. Ho dimenticato di dire per favore. La missione finisce qui. Io ti ordino di non andare. Ti ordino di non andare. Ti ordino di non andare. Ora capisco perché piangete. Ma io non potrei mai farlo. Comunque l'hai reso un attore migliore, possiamo dirlo? È uno di quei casi in cui se lo senti in originale che gli è rimasta quell'inflessione austriaca. Sì, fortissima. Per cui se fai il robot va bene in inglese. Però tu l'hai ammorbidito quel tanto da non perdere quell'anima robotica. Ma gli hai dato un'anima in più tridimensionale. Questo è uno di quei casi in cui si può dire, lo dico io, ma lo dice tanta gente, che si migliora con... Ma io non lo so, non... No, ma tu non devi dirlo tu, ovviamente. Non lo dico. Però un hasta la vista, baby, dimmelo. Hasta la vista, baby. Eccolo là. Guardate dall'altra parte del vetro come godono. Che bello, perché poi la radio è evocativa in questa, cioè non è più Alessandro Rossi, perché c'è solo, c'è la voce, ma c'è Schwarzenegger. La magia della radio è questa, tu senti un po' di pioggia e dici fa freddo, siamo nel 1860, e la gente viene portata in quel mondo magico come in un buon libro. La radio è un buon libro, si assomigliano moltissimo. Sono assolutamente d'accordo su questo. Ti piace il mondo delle, beh, il mondo della voce, però la radio, la radio è magia. Straordinaria, la radio è magia. Orson Welles l'ha scoperto prima di tutto e ci ha raccontato una guerra di mondi, ha fatto veramente morire, ha fatto subito capire come si può giocare con gli elementi, certo, nella maniera più intelligente. Allora abbiamo sentito anche Schwarzenegger, Liam Neeson. Qual è stato il tuo primo protagonista? Dove è stato lo sliding doors della tua vita nel doppiaggio? Sicuramente Rocky IV. Ah, beh. Rocky IV, perché non perché doppiassi un personaggio che parlava tanto, ma perché il poco che diceva è rimasto. Fra le quattro frasi che diceva, una era "io ti spiezzo in due". Sì, ecco. Quella "io ti spiezzo in due". Ah, eccola. Noi dovremmo fare dei promo per Voice Anatomy soltanto con la voce di Alessandro che dice "se cambiate stazione io vi spiezzo in due, se modulate la frequenza io vi cercherò, vi troverò e vi ucciderò". No, ma quello è l'immaginario, è vero, parlava poco, ma quel poco detto è rimasto. Il poco stava sul giornale il giorno dopo che era uscito, insomma, il film. Ed è rimasto nel dialogo, nella normale quotidianità. Ma poi la cosa più divertente è che quello era un periodo in cui si facevano parecchi B-movie di imitazione, per cui io c'è stato tutto un periodo della mia carriera in cui ho detto "io vi rompo in due", certo, cioè tutte delle varianti in russo, capito, di quella cosa. E poi l'altra cosa che mi ha dato una grandissima spinta è stata Ritorno al futuro. Ritorno al futuro per me è stato un altro di quei momenti topici, insomma. E poi dopo da lì Robocop, eccetera, fino ad arrivare a, è vero, a Arnold, e poi è venuto Schindler's dopo Schindler, è meraviglioso, ecco, l'umanità, insomma, e quella la bravura, si vede poi un attore che viene e declina la propria professionalità in tutti i settori, si sente che vieni dal teatro, che c'è anche il corpo in quella voce che tu utilizzi. Questo è un complimento bellissimo. No, non so se è vero, però ti ringrazio. No, è vero, assolutamente, anche se sei anche un mio direttore di riferimento, per cui un atto di ipocrisia e di ruffianeria c'è sempre dietro, ma non è così, perché parlano i fatti. Sai, è l'unico ambiente veramente sano da questo punto di vista, dove veramente se servi ci sei, se non servi non ci sei, e soprattutto se dai quello che devi dare, perché la gente deve sognare con te e tu sei fermo davanti a quel leggio. Questo è verissimo, questo rende l'ambiente del doppiaggio, di cui a volte si dicono delle cose sostanzialmente un po' ingiuste, no? Cioè sul fatto che ci possano essere delle che devi conoscere le famiglie, che le cose, le famiglie, le cose. Lo rendo invece molto non diverso da questo punto di vista. No, ma infatti, buon pomeriggio a tutti. Una domanda per Alessandro Rossi, a parte i complimenti che arrivano, ma evito di leggerli, e noi vi ringraziamo. Se ha mai incontrato Liam Neeson o Arnold Schwarzenegger, e quale attore tra i due preferisce doppiare? Grazie, Claudio. Allora, rispondo io per te. Allora, ho incontrato Schwarzenegger, ma l'ho visto da lontano, perché era una prima, ci siamo, diciamo, intravisti da lontano. Poi siete grossi tutti e due. Lui poi mi ha mandato una foto con la dedica, che naturalmente tengo gelosamente. E Liam Neeson invece non l'ho mai incontrato. Chi preferisco doppiare dei due è abbastanza inevitabile, Liam Neeson. Perché ti dà delle... Con tutto il rispetto, perché io sono molto affezionato a Schwarzenegger. No, ma infatti lo diciamo sempre, non è che una cosa comica è più importante, è meno importante di una cosa drammatica. Però doppiare Liam Neeson è sempre una prova, ti mette sempre alla prova, perché lui è davvero un grande attore. Sì, poi riesce a seguire, sei riuscito a seguirlo dalla grande e alta drammaticità di Schindler's List fino alla leggerezza, fino a un certo punto, di Io troverò, oppure del Non Stop, oppure di tutti i film d'azione, certo, alla seconda giovinezza di Liam Neeson, che ha trovato, sì, dopo quel film, ma sì, grazie, sì, anche a uno spessore che gli ha dato, vedete, l'importanza del doppiaggio, della traduzione, perché il doppiaggio non è altro che una bella traduzione che può essere fatta male. Allora, in quel caso, per esempio, tu adesso ultimamente hai diretto un film che è sulla parola, come il caso Spotlight. Eh sì, esatto. Ed era un film che hai trovato tu, il dialoghista l'hai fatto anche tu del caso Spotlight? Sì, sì. Hai seguito tutto? Fatto sia come i dialoghi che la direzione. Lì la difficoltà. Stato... Sapevi che ti trovai di fronte a un film che sarebbe diventato una bandiera del 2016, insomma, visto. E francamente successo. All'inizio no. Però ho visto il film, mi ha interessato tantissimo, mi è piaciuto da subito. E poi ho scoperto che in realtà era un film che aveva delle grandissime potenzialità anche ad altri livelli. E per cui sulla traduzione, sull'adattamento, non poche difficoltà. Non è stato un film facile. Non è stato un film facile perché è un film molto parlato, è un film dove il grosso problema quando si scrivono i dialoghi per un film è, come sempre, quello della sintesi, perché se si potesse semplicemente dire quello che dicono loro con i tempi e i modi che loro si prendono, sarebbe incredibilmente più semplice. E ci sono dei film che sono molto difficili da sintetizzare, perché e poi sono c'è anche un sync da rispettare. Certo, la sintesi in questo senso, perché certo. Poi vanno messi sul labiale. E quindi l'operazione che si deve sempre fare di traduzione e reinterpretazione, come ci insegnano i maestri traduttologi. Qualsiasi attento traduzione che qui ci chiamano in due. Sì, sì, no, ma questo lo dico con molta tranquillità. È vero, con molta così, tranquillità. Ok. E quel tipo di negoziazione che inevitabilmente si instaura fra l'originale e il prodotto tradotto di traduzione è una negoziazione a volte molto difficile, perché si è costretti a sacrificare qualcosa, bisogna scegliere cosa sacrificare, cosa invece mantenere assolutamente. E su un film di quel genere, dove tutti parlano, dicono cose tutte significative, certo, in tempi molto brevi, è una bella sfida. Va bene, allora ci ascoltiamo dopo altri momenti, rimaniamo sempre con Alessandro Rossi. Le vostre bellissime voci fanno tremare i vetri della casa, fantastico. Buon pomeriggio a tutti, bravi, complimenti. Vabbè, tutti i personaggi imbruttenti li fa Alessandro Rossi. Ma come? Imbruttenti, che vuol dire? Ma tra poco con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci, bentornati signori miei, Voice Anatomy, sempre in compagnia del bravissimo e persona veramente piacevole Alessandro Rossi. Buon pomeriggio ragazzi, domanda: è più difficile doppiare attori che hanno un accento d'origine? Beh, dipende. Qualsiasi attore ha un accento d'origine. In questo caso, soprattutto magari... se parliamo di attori americani, loro non fanno nessuno. Cioè, ognuno di loro recita con il proprio accento. Sì, d'origine. Se è dell'Alabama o quindi se non del è del Texas. Assolutamente. Non esiste l'attore che non abbia accento d'origine. Ah, beh, se è un film francese, ovviamente parlerà francese o parigino o di Nantes o chissà cosa. Però in questo caso, Schwarzenegger, essendo di origine austriaca, rimanendo quell'accento, vabbè, uno lo migliora cercando di ammorbidire la pronuncia. La traduzione è sempre mediazione. Alessandro Rossi ha ragione al 100%. Impossibile tradurre tutto. Passa l'idea, non la parola. Carlo Latina, che è un traduttore. Ah, vedi bene, che, bene. Vedi che è una radio veramente molto attenta, con persone molto attente, giudicano positivamente, negativamente. Certo. Io poi cerco sempre di leggere un po' tutto, anche una persona che non è d'accordo con il doppiaggio, lui si aspica dei film in lingua originale sottotitolati. Per carità, va benissimo, se sai la lingua, è come se sai la lingua, è un libro di García Lorca, tu sai lo spagnolo, leggilo in spagnolo. Se sai l'inglese, tu, Shakespeare, leggilo in inglese. Io vorrei far notare una cosa, visto esatto. Che stiamo andando un po' su questo. È chiaro che il doppiaggio è un'esigenza commerciale, ed è un'esigenza però che si accosta a tutte le arti che hanno bisogno di essere... nel momento in cui sono popolari. Io vorrei fare questo piccolo paragone, che spero non venga preso male. Hai capito come siamo qui? No. Pensate all'opera lirica. Finché l'opera lirica è stato un genere popolare, le opere liriche venivano tradotte. Oh. Rigoletto. Ci sono delle splendide edizioni di Rigoletto in tedesco. Certo. Ci sono delle splendide edizioni di Carmen in italiano. si è smesso di tradurre l'opera e, per carità, viva Dio, è giustissimo, perché è chiaro che quando la parola è accordata alla musica, esatto, tradurla è quasi è una bestialità, ma certo, nel momento in cui l'opera ha cessato di essere un'arte popolare, quando è diventata per pochi, ora è chiaro, mutatis mutandi, per carità, non tutto, però è un esempio che secondo me potrebbe farci pensare, cioè fino a che il cinema ha bisogno, è amato e vuole arrivare a grandissime masse, c'è bisogno non del doppiaggio ma della traduzione. Certo. Traduzione intesa, come giustamente già tu prima accennavi, Pino, come un restituire la versione integrale, la versione del film in un'altra lingua, così come si ha una versione di un libro o quello che dicevo dell'opera lì. È ovvio che... Scusate la digressione. No, perfetto, perché è un esempio che non è stato mai fatto e mi sembra anche giusto. Siamo innamorate di alcuni attori, ma nella realtà ci innamoriamo del doppiatore che dà loro la vita, dice Sonia. questa traduzione invece... Pino, continua a dire dopo colloqui, usa. Continua. Come farti capire che la scuola toscana in tema di dizione non fa testo? Questo per l'eufonia, con l'accento sulla I. Un abbraccio, Arturo da Roma. Mi traduci questo messaggio, per favore? Cioè, non sto sbagliando, so, è a dire un romano dopo. Innamorato del dopo. Dopo? Sì, ma insomma... Ci sono delle cose in cui fa orrore anche a noi dire parabrezza, per carità. Sì, è vero. Però... Però in generale è giusto che ci sia una dizione che... Qual è quella che fa testo? L'italiano, quella che fa testo è il dopo. Sì, assolutamente sì. Sì, mi dispiace contraddire l'ascoltatore, ma... Puoi anche telefonare e entrare in contraddizione. Quello che io so è così. Eh sì, e io mi fido. E i sottotitoli non sono una traduzione? Sì. Anche quelli. Allora, è molto importante. Io per questo prima precisavo una versione intera. E la versione italiana o la versione di un altro paese di un'opera straniera. Il sottotitolo è qualcosa che traduce, ma ci sono due problemi fondamentali sul sottotitolo. Prima di tutto, se esiste un problema di sintesi nel momento in cui si fa l'adattamento del dialogo in labiale, quando si fa il sottotitolo, quel problema di sintesi è decuplicato, non raddoppiato, decuplicato. E pensate a un dialogo serrato in cui si dicono molte parole, in cui gli attori tendono a parlarsi un pochino sopra. C'è un problema di lettura fisica. Il sottotitolo è una linea alla volta, al massimo due, con i due per trattini. Cui sintetizza anche un concetto in maniera anche sbagliata. I concetti sono cioè costringe a una sintesi ancora maggiore. E ve lo dico da esperto. Devi tornare. L'imbruttenza è la capacità di fare la faccia cattiva e incavolata degli attori. Rossi ne doppia un sacco, la sua voce è adattissima a questi personaggi. Tradurre un dialogo in italiano è difficilissimo. Gli italiani sono azzeccagarbugli quando parlano. Vabbè. E questa è Francesca, insomma, tanti, hai mosso veramente, stai muovendo un... Prego, posso prego. Aggiungere una cosa sul sottotitolo? Sì, certo. Da una parte quella della sintesi, poi se ci sarà occasione ne parleremo di più. Dall'altra, quando il dialogo è serrato, il sottotitolo costringe a tenere lo sguardo fisso sulla linea dei sottotitoli. Quindi in realtà si ascolta il film, si comprende quello che si dice, ma non si vede. Esatto, ti perdi qualcosa. Assolutamente. Hitchcock diceva che fra un sottotitoli e un buon doppiaggio, lui preferiva sicuramente il buon doppiaggio, perché aveva bisogno che il pubblico rimanesse incollato alla sedia dentro la scena. Il film, certo. È per questo che questo riguarda il discorso dei sottotitoli, che non significa che non vanno bene, vanno benissimo, però parliamo sempre di cose diverse. L'importante, secondo me, è non fare guerre di religioni contro nulla, cioè avere la coscienza, sì, esatto, la coscienza dell'operazione che si compie e sapere cosa c'è di buono e cosa di meno buono in ogni... La teoria degli opposti per forza, insomma. Poi qui va avanti, ma i sottotitoli si aggiungono, non sostituiscono. Va bene, qui non ne usciamo. Mi sembra che sia stato già abbastanza chiaro. Mi fate sentire invece, alleggeriamo un po', siccome Alessandro sì Schindler's List, sì tanti film, sì il caso Spotley, ma sì Transformers, signori, e allora godiamocelo questo Transformers. Sono una specie giovane, hanno molto da imparare, ma ho visto del buono in loro. La libertà è il diritto di tutti gli esseri senzienti. Sapete bene che c'è un solo modo per concludere questa guerra. Dobbiamo distruggere il cubo. Se tutto dovesse fallire, lo riunirò con la scintilla nel mio petto. Un sacrificio necessario per riportare la pace su questo pianeta. Non possono essere gli umani a pagare per i nostri errori. È stato un onore servire con tutti voi. Autobot, partite! Partiamo! Cioè, potrebbe essere anche Relier questo, capisci? Ma no, perché l'evocazione è quella, cioè il brivido, la musica si fonde con la voce. Cioè, queste sono persone... Noi ci mettiamo veramente, scusate il noi, ma poco rispetto al grande studio che ci mettono loro. Eppure viene fuori poi una realtà tridimensionale straordinaria. Cioè, qui lui come si chiama... Optimus Prime, sì. Cioè, capito? Però gli hai dato dentro come se fosse veramente il monologo di Schindler's List, quando lui trova ancora la sua fede da vendere e dice: potevo salvarne ancora altri. Insomma, l'intensità è quella. Qui con tutti i sottotitoli sono una caciara paurosa. Vabbè, fino in futuro pensi sarà possibile uno streaming video della vostra trasmissione, ancora meglio di essere spettatori in studio. Guarda, più facile che essere spettatori in studio, perché io sono sempre dell'idea, alla radio ne abbiamo parlato poi all'inizio con Alessandro, è evocazione, è evocativa, è magia, ti inventi le cose e pensi che realmente possono accadere. La radio con un video si chiama televisione, un libro con i disegni si chiama fumetto. Sono e assolutamente allora d'accordo con te. Lasciamola così, però sì, quest'idea di avere degli spettatori in studio può essere ovviamente sempre bella, stimolante, perché anche dopo la presentazione quell'applauso reale che il nostro amico normalmente Valerio mette anche magari di soppiatto finto attraverso il muro. Io saluto ovviamente Valerio e Gaia dall'altra parte del vetro, Alessia Navarro come capo progetto e Damiano Fabiani Berti dall'altra parte, l'altro autore che si sta mordendo nervosamente le unghie perché sono sempre molto attenti in modo tale che la trasmissione vada bene. E allora ci sarà qualcuno che sa quattro hacche di lingue straniere, c'è anche in Italia. Ma sì, no, abbiamo dato, siamo sereni. C'è nessun problema, voglio dire. Ma magari ci sono pure di più. Ma è chiaro che poter fruire di un'opera in originale è sicuramente meglio che fruirla di un'opera tradotta. Questo credo che non lo, che sia innegabile. Sì, sì, da abbiamo detto, tranquillamente. Vi seguo con grande affetto. Spotlight è un grande film, è un filmone. Quando vuoi, durante la puntata, puoi raccontare l'aneddoto di John Landis quando l'hai portato a mangiare la matriciana. Ma che c'entra adesso? C'è Alessandro, no? È successo che venne in Italia John Landis, io ho doppiato l'ultimo film suo, e mi ha chiesto dove andare a mangiare. Bene, però devo fare 200 metri, perché dovevamo tornare subito. Lo porto, dico, andiamo qui davanti, tanto la matriciana da qualche... Che ne sa, questo è americano. Qualsiasi matriciana andrà bene. Faceva veramente schifo, non dico dove abbiamo mangiato. Tant'è che il giorno stesso, alla conferenza stampa del film, davanti a 500 persone, John Landis ha detto, è una cosa importante, lo disse in italiano, quando Pino Insegno vi porta a mangiare fuori, non credetegli. Per cui è successa questa cosa che durante la conferenza, John Landis, parlatene male, ma parlatene, insomma. Che cosa sta succedendo nella tua vita, Alessandro? A parte il futuro nella lirica, perché succederà? Beh, no, ormai credo di essere assolutamente fuori, fuori età. Ho finito appena di doppiare Shere Khan nell'ultimo libro della giungla. Ah, è vero, questo. Insomma, è un grande piacere, perché sono personaggi... La tigre, chi era la tigre? Vecchia, nel vecchio cartone animato, mi ricordo Corrado Gaipa, che esatto. Era Baghera. Era... No, Corrado Gaipa era Baghera. Era Baghera. Sì. Pino Locchi, Balù. Pino Locchi era Balù. Grande, sì. James Bond, e poi ne parleremo di questi, certo, grandi, sì. Grandi Mowgli, non mi ricordo, quello non so. Mi ricordo che Corrado Pani era Peter Pan. Era Pinocchio, se non sbaglio. Siamo arrivati alla fine dell'incontro con Alessandro. Però io voglio strappargli una promessa di tornare, anche perché abbiamo tantissime cose da dire. Poi hai aperto dei link bellissimi che possono essere proprio seguiti, inseguiti, sottolineati, riparlati, approfonditi, come riusciamo a fare sempre in questa trasmissione, o cerchiamo di dare il massimo. Alessandro, veramente ti ringrazio. Alessandro, grazie della tua grande professionalità, della grande disponibilità e della tua sottile intelligenza, che non vuol dire poco, ma vuol dire ampia. Grazie tantissimo a voi. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, a Voice Anatomy, in questa puntata speciale nella quale abbiamo deciso di riproporvi alcuni degli ospiti che abbiamo avuto dall'inizio del nostro viaggio fino ad oggi. Ho il piacere di presentarvi Rossella Acerbo. Ciao, ciao a tutti. Eccola, sembra la voce di una bambina dodicenne adesso, ma non lo è una mamma. Voglio leggervi qualcosa di Rossella Acerbo. Abbiamo avuto poco tempo fa, non sbaglio, un paio di settimane fa, il bravissimo Sandro Acerbo, la voce di Will Smith, Brad Pitt e quanti altri. Lei non doppia Will Smith, Brad Pitt, no, ma ne doppia tantissimo, una bravissima attrice, ha una voce particolare, come avete sentito, molto duttile, e poi comincia la sua carriera molto, molto presto, ma voglio camminare con lei attraverso la biografia senza fare questo lungo elenco da Wikipedia, visto che è vivente e sta al mio fianco. Tu hai cominciato prestissimo, sì, come tantissimi tuoi nostri colleghi, con un personaggio poi importante, storico, che è Drew Barrymore, quando ancora non era Drew Barrymore, non beveva moltissimo, era una bambina, non ha fatto poi quel percorso ed era casa, telefono, casa. La bambina di E.T., devo dire, è stata una bellissima esperienza, soprattutto per una bambina così piccola, e trovarsi in quanti quel anni magico... avevi intanto? Avevo sei anni. E la Barrymore lì, più e o meno? Lei ha un anno meno di me, quindi cinque. Ne dimostra 12 adesso. È una vita diversa da quella, diciamo, che abbiamo fatto noi. È un po' più intensa. Io mi sono un po' più mantenuta, sì, dai. Un bel vinello dei Frascati ci è scappato una domenica sicuramente, però non ti ha rovinato, insomma, la voce, no? Sì, infatti. E niente, da lì poi è partito questa grande avventura. A me mi è sempre piaciuto il doppiaggio, perché io racconto sempre che quando avevo 4 anni io ero una fan sfegatata delle Charlie's Angel e chiamavo a casa Flaminia Iandolo, che era la doppiatrice di una delle tre di Kelly, quella mora, sì. E io le facevo: pronto? Ciao Kelly! E attaccavo. Quindi ce l'avevo sempre avuto. Tanto per è vero... cui il culto della voce non eri che eri invidioso, volevi quel corpo lì, volevi quella voce, quella voce. Che ti raccontasse una storia. Sì, è sempre stato. Poi, diciamo, io ho avuto la fortuna proprio di iniziare nel magico mondo del doppiaggio, dove la Di Meo, Barbetti, Locchi. Abbiamo avuto Maria Pia ancora, cioè, in grande spolvero. Vittoria Febbi, la Savagnone, cioè proprio il doppiaggio dove quelle voci erano magiche. Erano sì, grande personalità, grande, devo dire, personalità, rispetto sì, ad adesso, che sono bravissimi, per carità di Dio, però quella personalità lì permetteva loro di doppiare 5 attori diversi, anche con la stessa voce, sì, ma nessuno ci faceva caso, non dava fastidio. Assolutamente. Cioè, Amendola poteva doppiare tutti ed era tranquillamente credibile, era assolutamente incredibile. E poi loro erano proprio delle star, erano affascinanti. Chi ha cominciato prima in famiglia da te? Cioè papà e mamma che no, facevano? Mio papà faceva il fabbro e mia mamma la casalinga. Per cui mio fratello piccolo, Sandro o Maurizio? Sandro, perché è il più grande, e lui praticamente era un ragazzino molto sveglio, cantava, ballava. Si è perso poi, strada facendo. Sì, poi dopo gli è venuto. Ci starà ascoltando. Ciao Sandrino. E praticamente un'amica di mia madre, che era la mamma delle Pasanisi, Isabella e Anna Rita, e disse: ma perché non lo porti a fanno i provini per la carica dei 101? Questo ragazzino è così sveglio, portalo. E mio fratello andò, vinse il provino per questo cartone. E fece un cane. E fece un cane. Oh, oggi so che abbandoneremo tutto, fratello, e io perderò il lavoro, però... Però insomma, da allora lui ha iniziato, poi mio fratello Maurizio ha continuato, però lui, diciamo, poi si è staccato, sì, più una carriera tecnica, sì, esatto. E poi io ho sempre vissuto questa cosa, ha fatto un provino per Drew Barrymore, sì, e venne scelto proprio da Spielberg in persona. È venuto Stefano Spielberg. Sì, non solo. Io ho avuto una fortuna incredibile per una bambina di 6 anni. A fine film, perché era il periodo di Natale, ci regalò la Befana di E.T. e arrivò un sacco di juta con tutto il merchandising di E.T. A parte quella lettera che ce l'ho ancora conservata di Steven, con affetto a Rossella Cerbo, Steven Spielberg. Vedi quanto sono intelligenti i nostri amici d'oltreoceano. Assolutamente. Poi il picture disc, il pupazzo, che però il pupazzo l'ho rotto, era il pupazzo di Rambaldi, mia madre me l'ha buttato. Ma tu ti rendi conto, signori, chiunque fosse in ascolto e c'è ancora un pupazzo di E.T., mandatelo alla Cerbo che ancora ci si addormenta. Hai capito? Anche se sei sposata, ho due Emanuele, figli meravigliosi, bravissimo, non collega ma lavora nel doppiaggio, sì, lui, del resto nei doppiatori per sì, forza coi fonici, che è il tecnico del suono, non, almeno quando doppi sicuramente verrà meglio, ti tratterà bene, e due figli, sì. La piccola Lucrezia che già doppia, sì, e poi Gianmarco che ha 16 anni, romanista sfegatato, mi dispiace. No, mi dispiace, non si parla di sport, d'altra parte sapete perfettamente, controllando se la Roma gioca in casa o fuori casa, sapete che tecnico del suono ho. Non c'è Alessandro, ma c'è Valerio, che rende goliardica una trasmissione nazionale, anche molto importante, me la rende regionale con la sua presenza, ma io lo ringrazio comunque, che vanno ringraziati. Bene, detto tutto questo, controlliamo se arrivano già i primi messaggi, eccoli. Ok, già. Nick Orbit scrisse che il mondo si divide in due: chi ascolta Neil Diamond e chi no. Io no, ma in fondo il tuo programma mi piace. Il tuo cane da guardia, Lorenzo da Venezia. Sì, ci sono degli ascoltatori fissi che mi correggono poi se sbaglio. Ho imparato tantissime cose in queste 20 puntate da parte degli autori e da parte dei nostri fedeli ascoltatori. Dicevamo di questo inizio folgorante con E.T. e da lì è continuato. Scuola, cioè, io mi sono sempre domandato, un bambino che lavora così tanto, una gran fatica. E per questo che ci vuole tanta passione. Sì, assolutamente, perché non sei mai bambino, perché no. La mattina vai a scuola, il pomeriggio hai turni, la sera torni a casa e devi studiare, e quindi però un grande amore che poi è quello che muove tutti, in tutti i mestieri, in tutti i mestieri se non tanti c'è quello sacrifici, è finita. tante cose, insomma, però io sono contenta e tuttora lo amo. Sono 36 anni e tu ce n'hai 34. Sì, questa la cosa incredibile, è questa. Mandiamo un piccolo contributo dei tanti doppiaggi che percorreremo insieme a Rossella. Il primo, decidetelo voi, che volete mandarmi: i marciapiedi di New York. Chi doppiavi i marciapiedi di New York? Ah, bella domanda, la so, era la stessa che ho doppiato in Boogie Nights. Addio. Mentre ci pensa, mandatelo. Non avrei mai pensato che sarei stata il tipo di ragazza che divorzia. Sono cresciuta con l'idea dell'amore eterno, ma sono cose che succedono. Già, e mi sento eccitata dal fatto di aver dato una svolta alla mia vita. Mi sento fiduciosa. Mi sento sollevata, molto sollevata. Ero veramente stanca di lui. Ups! Era Heather Graham, ci sì, siamo arrivati anche Boogie Nights. Quanti sì, anni fa? Questo non è recente. No, molti assolutamente anni fa. Ma io non mi ricordo niente, non mi ricordo date, non mi ma ricordo no, un disastro. Ma tu non tieni i DVD o i VHS dei film che hai doppiato? No, pausa, no, silenzio. No. Ma dai, ma è carino. Ma anche per... Vabbè, i tuoi figli non si stupiscono più, perché no, ovviamente per loro sanno è normalissimo. Non li mandi a letto, dici ti faccio telefonare da Buzz Lightyear se non dormi, sanno perfettamente chi è. Esatto, oppure mamma, ogni tanto mia figlia, quella piccola, fa: mamma, zio? Mamma, zio Sandro, mamma, questa sei tu, mamma, questo è Pino, perché ti riconoscono pure a te. Certo, anche se io cambio. Per cui conciliare questi problemi di ragazza, poi sei da adolescente, cioè sì, i problemi dell'adolescenza, della libertà di una ragazza che sta crescendo, con il lavoro, perché lui continua a lavorare tantissimo, non so quanti centinaia di film hai tanto doppiato da protagonista, per cui tu non tieni neanche DVD perché non c'entrano dentro casa. Ma come hai conciliato poi il lavoro? Come... Se il fidanzamento, i lavori, perché ti sei fidanzata sempre con colleghi? No, no, assolutamente. Infatti il primo è andato male perché non era un collega. Non capivo i tempi. Perché non ci abbiamo dal mezzogiorno all'1:30 no, e basta. No, ma poi comunque era difficile perché non esistono le gite scolastiche. La tua vita è scandita da turni. Io faccio sempre un esempio. Sì, dovete sapere che i nostri turni, ma avete imparato a saperlo, a conoscerlo, sono 9:00, mezzogiorno, pausa, mezzogiorno, 1:30, 1:30, 4:30. 4 e mezza, 7 e mezza, e ogni tanto 7 e mezza, 10 e mezza, quando, di sera, quando i film deve uscire, assolutamente, soprattutto le serie. Però diciamo che alla fine, quando sono nell'età dell'adolescenza, che appunto avevo le feste, le cose, niente, io racconto sempre che la mia vita è stata scandita da aspettare e liberare. Io ho avuto scritto liberare per maturità, ve lo giuro. Liberare per maturità, cioè, cioè l'esame di maturità, stavi in sala, esatto, a fare il doppiaggio, a fare dai. Così gira il mondo, che era una soppopera del passato, oh, che doveva andare in onda, io avevo l'esame di maturità e ci ho avuto anche aspettare da tribunale quando mi sono divorziata col mio primo marito, quindi per cui, un disastro. Liberare per maturità e aspettare da tribunale. Aspettare da tribunale. Quindi racconto sempre questa cosa perché purtroppo la mia vita è sempre scandita da turni. No, ma anche perché la gente vuole conoscere che c'è dietro le spalle di un professionista, e questo non è male. C'è un avvocato e un professore fino adesso che ti hanno mosso la vita da questo punto di vista. No, no, ma è veramente divertente, è bello, divertente. È appassionante come tutti i mestieri fatti con grande amore. Per cui il primo fidanzato non era assolutamente così. No, e infatti mi ha lasciato. Il secondo, è tuo marito, di là che ci sta. Il secondo è tuo marito. Sì, io sono una ragazza all'antico, giuro su Dio, non ci crede nessuno. No, no, ci crediamo. Ma io per mancanza di tempo ho avuto due uomini e me li sono tutti e due sposati. Non per amore, cioè, sta di là tuo marito, tu l'hai sposato per mancanza di tempo. Sì, no, no, per amore. O rimanevo zitella o mi sposavo lui. Senti, adesso utilizza, perché adesso lui è molto felice, dall'altra parte del vetro sta chiamando l'avvocato, liberare da avvocato. Amore mio bello. Adesso manca un minuto alla fine del primo, questo primo intervento insieme. Utilizza una delle voci migliori che hai per dire quanto lo ami. C'hai 30 secondi per poter dire due parole d'amore a tuo marito, per recuperare questa storia e per dire ai nostri radioascoltatori che torniamo fra pochissimo. Il fatto è che lui non mi crede. Va bene. Va bene. Chiudi gli occhi, Emanuele, grazie. Anche voi a casa. Amore mio, sei la cosa più bella che mi sia mai capitata. Vogliamo mettere pure la musica sotto? Se, pagando anche una cifra extra, Valerio, se puoi. Possiamo? Eccolo, vai. Amore mio grande, sei la cosa più bella che mi sia mai capitata. Ringrazio ogni giorno Dio per averti conosciuto. Sei il mio cuore, sei la mia mente, la mia anima. Sei tu, amore mio. Grazie. A tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Voice Anatomy. Grazie per tutti i vostri messaggi. La prima volta che ho sentito Rossella Cerbo, che è qui sempre al mio fianco, è stata da piccolo, sentendola in Friends, in cui doppiava Feb. Lisa Kudrow, mitica. Sì. Noi ce l'abbiamo un contributo di Friends? Io credo di sì o non ce l'abbiamo? Mi fa accenno di no Valerio, però Damiano l'aveva scaricato in tutti i suoi... No. Non l'aveva neanche scaricato. Come faceva a questo punto? Allora, purtroppo lei è quella con cui mi identificano tutti, perché è completamente fuori di testa. Ecco, mentre tu sei una dentro di testa, dai. Beh, sì, ma sei simpatica, sempre molto brillante e pimpante. Però è quello, diciamo, un po' folle lo sono. Sì, dai. Nel lavoro sicuramente. Comunque, com'era? Io sono molto stonata. Sì. E questa mia stonatura che mi però ha reso... puoi essere stonata là, tu reciti e sei intonata, sei solo diseducata nel cantare. Mi hanno bloccato da piccola, non lo so, non so solo che una delle mie canzoni di Friends che più ha avuto successo è Gatto Rognoso. E com'è Gatto Rognoso? Perdonami, io la serie l'ho vista distrattamente perché ero già grande. E fa così. Vai. Gatto Rognoso, bel gattone, tu puzzi come un caprone. No. E vi giuro, me l'hanno fatta cantare in diretta anche su Fox. C'è la polizia che sta. Grazie Valerio di questi inserimenti reali. Continua poi le parole di questa canzone? Sì, però non me lo ricordo. Peccato, perché la gente stava correndo sul telecomando per cambiare programma e dice: no, guarda, non credo che sia Voice Anatomy, c'è una pazza che sta cantando Gatto Rognoso. Diciamo che questa è quella cosa che mi perseguita dei Friends ormai da 20 anni, insomma. Com'era la voce? Era molto esile di questa protagonista di Friends. Ma guarda, io perché credo... tanti anni fa, quanti anni fa è Friends? È iniziato nel 92 ed è finito nel 2004. Stiamo parlando di 20, più di 20 anni. Sì, però lei, io continuo a doppiarla, l'ho doppiata anche recentemente in una serie che si chiama Web Therapy. E, è l'unico caso in cui non sono io che doppio lei, ma è lei che mi presta la faccia. Cioè, presente, Pino? Sì, sì, sì. Io dico sempre che sono loro che mi prestano il corpo per patteggiarmi. È una cosa che non ho con nessun'altra attrice. Riesco a capire ancora prima. Vabbè, c'è un'empatia forte, sì, c'è proprio un pazzesca. Collegamento. E la voce, poi alla fine lei è molto più grande di me, perché ha 10 anni più di me. L'attrice. Però le voci si assomigliano molto oppure siete un po' staccate? No, diciamo che... Sono le intenzioni, i colori? Sono, è più la faccia, non so come... Gli entro dentro agli occhi. Ecco, bene, grazie. Perché sono le 2:48 e sei una splendida fanciulla e madre di 2 figli. Senti, per cui lei, ma quale attrice sei legata maggiormente? Qual è quella che ti dà più soddisfazione quando ti capita? Beh, lei mi piace di tantissimi, perché se andate... Diciamo Drew Barrymore sicuramente, perché la doppio pure lei da 36 anni, cioè eravamo bambine. Mai conosciuta, mai sentita? No, perché io lo sai, sono molto pantofolai e quando mi hanno invitato... Per invitarla oggi, signori, la fatica. Mi hanno invitato alla prima di Charlie's Angel, che c'erano anche gli attori. Che poi fatta l'hai doppiato, vedi come torna tutto. E io non ci sono andata perché... Era l'occasione per conoscere Drew Barrymore. Non ci sono andata perché era tardi. Sì, sicuramente, perché c'era qualche fiction italiana da vedere in prima serata. Ma voi vi rendete conto. È incredibile, dall'altra parte del vetro il nostro Valerio si sta preso una trasmissione in pugni, abbiamo Friends per ascoltare l'originale di incisione. Ma c'è Gatto Rognoso, no? Vi ringrazio di questo, c'è la voce invece dell'attrice, prego. È la 10ª volta che vado al bagno da quando sono qui. Ed è anche la 10ª volta che lo dici. Deve essere dura ascoltare i miei lamenti. È più facile avere a che fare con 3 bambini che suonano un pezzo funk indemoniato con la tua vescica. Non ne posso più di essere incinta. L'unica mia gioia sono 2 tazze di caffè rigorosamente decaffeinato perché, sono incinta. Febe, vuoi un biscotto? Grazie infinite. Eccoti, allora Acerbo, vuoi un biscotto? Allora, praticamente io a questo periodo della vita sono particolarmente legata, perché lei era incinta e sì. Io ero incinta del mio primo figlio, Gianmarco. Che adesso ha 16 anni, quindi è un ragazzo praticamente. Però sono molto legata a questo, perché è una cosa bella che succede. Beh, certo, te l'attrice e poi... Lei era incinta di 3 gemelli, io per fortuna uno solo. 3 gemelli? Sì, nella fiction ovviamente. Poi si è separata? No, si è separata. Lei non si è separata, vabbè, l'hai seguita fino a un certo punto. Sì. Per cui... Però tu, a parte tutto questo, anche se il tempo non ne rimane tantissimo, è ovvio, ma un hobby nella vita, a parte infilare pantofole a te e a tuo marito appena entrate a casa, ci sarà una passione? La cucina. Tu cucini o cucina Emanuele? No, ma che? Emanuele non fa niente. Emanuele sta sempre dall'altra parte del vetro. Ciao, dico. Amore. Non, a questo punto non ti posso far ridire quanto lo ami, perché suonerebbe veramente falso. La cucina mi piace molto. Mi diverto, mi rilasso. E quali sono i piatti preferiti della famiglia Acerbo, Emanuele? Ma a parte che a Natale sono stati tutti a casa mia. E sono tanti, perché abbiamo anche dei cugini, esatto, i Manfredi. Esatto. Ecco. Eravamo 18 a Natale e 26... E 22 e 26 dicembre. E tu hai preso in rosticceria facendo finta di cucinare, no, o hai cucinato? Tutto io ho cucinato. Guarda, ecco. Sono rimasti tutti a bocca aperta. Ma questo dovrebbe far pensare, perché non hanno respirato per alcuni minuti rimanendo a bocca aperta. Bisogna vedere se hanno continuato o l'avete ricoverato. No, ho ricevuto un sacco di complimenti. Ma cosa però? Allora, io il mio cavallo di battaglia è la cucina romana, perché mia madre mi ha insegnato sempre. Quindi per cui trippa? No, matriciana, poi la coda alla vaccinara. Com'è? Come si fa? Come si prepara la coda alla vaccinara? Allora... No, non ho detto come si fa l'amore mentre si mangia la coda alla vaccinara. Si prende un pezzo di coda. Sì, grazie, si quello fa, si compra. Lessare. Si compra. Si fa lessare perché deve, sgrassare. Sgrassare. Si deve tutta sgrassare. Bene. E dopodiché, dopo che è stata lessata, viene preso il sedano, viene tagliato a pezzetti piccoli. Melina a centrocampo per non arrivare alla fine del blocco e non hai detto nulla. Non esiste. Allora si lessa, si fa il sedano. E il pomodoro si tutto il soffrittino e si fa cuocere. Insieme alla coda. E poi è fatta. Beh, non è complicato, certamente è complicato la coda, è comprata. Un pezzettino di peperoncino. Va bene. La signora Acerbo Rossella è sempre qui al mio fianco, sempre sorridente, pimpante. Vedi che quando esci da casa ti diverti, tu che non vuoi uscire da casa. Senti, è un momento, è stato scelto anche per te, è un momento divertente, anche ironico da parte di chi sa recitare, leggere qualcosa che contrasta pienamente con quello che sta leggendo. Allora invito voi a cogliere il qual è l'oggetto misterioso che ci racconterà con la sua voce suadente Rossella Acerbo, con tanto di musica. Mettiamo una musica più dolce, eccola. E allora raccontaci questa storia, Rossella. Prima dell'utilizzo è opportuno leggere attentamente le istruzioni. Può sembrare un'operazione banale alla portata di tutti, ma usarlo con efficacia può risultare per alcuni un'impresa ardua. È pur vero che in quasi tutte le attività di utilizzo personale l'uso di un buon attrezzo è una cosa essenziale. Bisogna innanzitutto sapere come è fatto e quali sono i principali tipi di estremità e le relative caratteristiche rotatorie. Osservare le regole generali di utilizzo è di estrema importanza. È opportuno evitare di avere abiti abbondanti o svolazzanti, e se abbiamo i capelli lunghi è meglio raccoglierli. In ambedue i casi si può rischiare che la punta si impigli in uno di questi, cominciando ad arrotolare e a trascinare vorticosamente in una maniera impressionante. L'attrezzo solitamente ha il tastino per bloccare la velocità quando gira al massimo. Stabilito con esattezza il punto che più vi aggrada, procedete a un primo approccio alla minima velocità dell'attrezzo, aumentandola via via che la punta entra. È sempre bene iniziare con una punta di diametro inferiore a quella che vi serve, per poi raggiungere il diametro desiderato. Per la massima riuscita è bene che la cavità, oltre alla giusta larghezza, sia anche lunga quanto l'attrezzo che dovrà ospitare. Detto ciò, scegliete il momento e il posto giusto e buon divertimento. Beh, certo, è ambiguo quanto basta, ma dovete crederci, è esattamente il libretto di istruzioni di qualcosa di esistente e di molto pratico. Sono dappertutto. Arrivisti, truffatori, ladri, corrotti. L'Italia sembra perduta. Eppure un manipolo di eroi resiste. Se non vuoi cedere al lato oscuro della forza, ascolta. Si può fare. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini, il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus. Voice Anatomy. Bentornati a Voice Anatomy in questa puntata speciale nella quale abbiamo deciso di riproporvi alcuni degli ospiti che abbiamo avuto dall'inizio del nostro viaggio insieme fino ad oggi. Come sempre al mio fianco dall'altra parte ci è venuto a trovare un grandissimo protagonista della voce, un attore, un doppiatore. Leggo una breve bio perché altrimenti finirebbe il primo blocco soltanto raccontando chi è e da dove viene. Nasce a Napoli e l'ho scoperto oggi il 15 maggio del 1973, è un attore, doppiatore, direttore del doppiaggio italiano, si è laureato in scienze della comunicazione nel 1998 ed è noto soprattutto per aver prestato la voce a tantissimi, ma lui è... Beh, chi è che non ha nell'immaginario collettivo? Allora, visto che ho i nostri amici, vorrei la colonna sonora di quel film e lui a un certo punto entrerà con la frase che l'ha reso celebre e maledetto per questo. Prego. siamo sulla prua della nave. Ovviamente non sono io che sto guardando l'oceano, ma c'è una bella ragazza al mio posto. Dietro di me, dietro di lei, sopraggiunge lui, che gli dice: adesso chiudi gli occhi, Pino, si fidi di me. No. Francesco Pezzulli, ladies and gentlemen. Ciao a tutti, buonasera, ciao. Che bello. E questa è una maledizione e una benedizione, perché tutti gli attori maledicono il film o la frase che li ha resi famosi senza... Non di... Mi suggeriva prima Eleonora dei Barahonna, sì, che questo è un classico esempio di... ancoraggio emotivo. Vabbè. Nel senso che ti fidi, sì, di me è una frase che potresti dirlo, però... nel momento in cui l'hai visto sulla prua del Titanic, sì, ti ricorda quel mondo. E quindi quando uno dice ti fidi di me, via, tutti che scendono, niente, spruzzi da spruzzi d'acqua, cosa? No, ma scendi dalla macchina, ovunque sei, da una moto. Mi ha ferito la tua sorpresa quando hai detto laureato. No, no, perché... non so se offendermi più quello quando hai detto nato a Napoli. No, sì, nato a Napoli è una cosa bellissima. No, laureato mi fa piacere, perché per tutte, per l'immaginario collettivo delle persone, un attore fa l'attore. Deve essere ignorante. Ignorante, non ha mai studiato, legge i copioni e basta. Invece il fatto che tu sia un comunicatore, ma questo si sa, si capisce, perché Francesco ha proprio, è il manager di se stesso intanto. Pochi di noi sanno. Ho imparato da Pino Insegno. Certo, proprio il mio cognome ti ha aiutato tantissimo. Che poi piacerebbe poi chiamarmi in americano, perché secondo me il mio nome e cognome in americano suona meglio, che è Joe I Teach. Che è Joe Giuseppe Insegno, che è quello. Non è male. Pezzulli non riesco a declinarlo in americano. Io mi ricordo quando hai incontrato quell'attore americano e tu hai detto ciao Jamie e lui ti ha detto ciao Paino. Sì, era Jamie Foxx. Sì, Puino. Ciao Puino. Però Jamie Foxx se mi chiama Puino, sinceramente, ci si può stare. Ci si può stare tranquillamente. Io pure una volta ho incontrato Leonardo DiCaprio. Beh. Era a passeggio per Roma perché stava girando Gangs of New York. Ah. Io mi sono avvicinato, c'era la guardia del corpo, dico: vorrei salutare Leonardo DiCaprio. Dice: la vogliono un po' tutti, scusa, capisci? Dico: puoi dire che sono la sua voce? Ah, sei il doppiatore, un attimo che lo chiamo. Lui si è avvicinato, dice: what's your name? Faccio Francesco Pezzulli. Lui ha fatto Francesco Pezzulli e ha cominciato a ridere. Ma perché? Non lo so, però, perché? Però la sensazione forte era che mentre lui parlava mi veniva voglia di parlarci sopra. Sì. Adesso sapevo già dove andava a finire. Sì, io lo conosco molto bene, lui non mi conosceva. E poi noi riusciamo bene o male a parlare dopo pochi fotogrammi che una persona comincia a sync. Uno riesce ad essere quasi a sync anche con le persone che non conosce e che non sa cosa. Ma poi DiCaprio è di origine italiana. Adesso non voglio fare intervista a te per DiCaprio. Sì, insomma, sì, ne... sì, sì, lui ah, è DiCaprio. Insomma, DiCaprio. Il papà ha origini italiane. Ci sta, a caso, sì, di un paese, penso, del sud Italia. Beh, me lo auguro, insomma, di Capri, insomma, di Caprio. Di Caprio, quello è Peppino. Dopo gli chiediamo una canzone di Barahonna. Sì, abbiamo cominciato bene. Fra, insomma, io lo so, ma insomma, io sono soltanto uno che veicola. Quando hai cominciato tu questa avventura? Come attore, che hai cominciato prima come attore, poi come doppiatore? Sì, ho cominciato come attore. La cosa singolare è che feci una fiction, che all'epoca non si chiamava fiction, ma era uno sceneggiato televisivo per la Rai. Si chiamava Anna Ciro e compagnia e fui doppiato da Alessandro Quarta. Anna Ciro e compagnia. Ma eri tu un attore e ti hanno doppiato? Alessandro Quarta mi diede la voce a me. Allora posso aggiungere, io non parlo mai di me perché non è giusto. La voce di Topolino, insomma, sì, un doppiatore bravissimo. Mezzo destro, mezzo sinistro, un film storico, insomma, sì, meraviglioso. Calciatori senza pallone. Gigi Andrea, esatto, film che insomma anche Tarantino lo prende come esempio. Io facevo Carlo Vacca per gli amici Vacca Carlo, che insomma già questo ti fa capire. La dice lunga. Io giocavo a pallone, avevo 20 anni, venivo dalla Serie C, cioè, per cui facevo già l'attore, cominciavo, però dico: cavolo, faccio l'attore, gioco a pallone, per me è il massimo della vita. Anche Sergio Martino mi ha massacrato durante il film perché io cercavo di fare il gol vero. E invece sprecavo metri di pellicola perché magari usciva fuori via per palo e lui diceva: ma chi cagna ha mannato questo, cascia via. Insomma, sono stato doppiato anch'io da Sagliocca in Veneto. Ah, fantastico. Per cui gli inizi sono, vedi, stati simili da questo punto di vista. Poi successe che fecero la seconda serie, mia madre non firmò la liberatoria perché scoprì che esisteva il doppiaggio. Certo. E quindi, siccome in quella fiction mio padre era dal vivo, nel senso come attore, Sergio Fiorentini, siamo stati 6 mesi a Palazzina Persichetti a doppiare con Sergio, che praticamente mi ha insegnato come funzionava, metà lui e metà Renato Mori, che faceva un altro personaggio. Quanti anni avevi? 6, 5 e mezzo, 6. Subito? Sì, sì, ero piccolo. immediatamente. Poi però non ti sei fermato lì, perché poi un doppiatore deve essere assolutamente, non lo ripetiamo, un attore, altrimenti non c'è modo. E poi c'è stato il teatro. Non ero molto bravo, e venivo chiamato soprattutto per fare le parti in napoletano, perché tipo, che ne so, film tipo Scugnizzi, queste cose qua, feci delle parti, delle voci, per cui ce l'hai e dentro. Là ho capito subito la differenza fra la verità e cioè il doppiaggio, che cos'è, perché non doveva essere vero, doveva essere verosimile. È un po' il discorso che ha fatto Ferruccio Amendola quando parlava siciliano. Ferruccio Amendola non parlava siciliano, però quando diceva "che te lo dico a fare", tutti idealmente lo collocavano là. E così l'ho capito mano a mano che non dovevo essere veramente napoletano, ma fare un accento che ricordasse quello. Per cui le sonorità. E quindi là ho capito l'importanza, insomma, di non essere vero, ma essere verosimile, che è un discorso tecnico. Ma però questo te l'ha detto importante. Anche questa Eleonora ti ha detto questa frase. L'ho suggerito io prima. Ha fatto un discorso filosofico prima. È bellissimo, come gli ho detto, Radio 24, che non è la radio dove. Anzi, la salutiamo, la tua radio, che è Radio DJ, dove tu lavori e fai un programma molto divertente con i nostri amici del Trio Medusa, che io faccio una rubrica adoro. Che si chiama Voices, esatto. Nome originale, nome originale, Voice Anatomy, insomma, era giusto questo gemellaggio, visto che siamo molto amici, a parte con te, ma con i nostri con comuni, con Trio Medusa, con beh, assolutamente una radio fantastica. E allora, dopo di questo, poi comunque c'è stato il teatro. Poi sì, poi è successo che a 12 anni, 13 anni, ho fatto un provino con Giancarlo Cobelli, che è scomparso qualche anno fa, che è stato un grande regista teatrale, e feci Le nozze di Figaro. Dove facevo Cherubino. Sì, facevo Cherubino, Stabile di Torino, all'epoca diretto lo Stabile da Ugo Gregoretti, e c'era in compagnia con me Paila Pavese. Niente, era la contessa, io dovevo sedurre, cioè tutte persone che poi nella vita ho ritrovato, ho rincontrato, perché Ugo Gregoretti è stato mio insegnante all'università, quindi casualmente. Gregoretti, è vero, in comunicazione lui sì, cioè, parlava. Mi diede 30 lode. Sì. Però gli ho ricordato questa cosa. Ah, certo. Prima dell'esame, prima del voto, ho detto guardi che io ho lavorato con lei. Si ricordi, perché il tempo di studiare non c'è fra un turno e l'altro, fra quindi un teatro e l'altro. Sono tornato dopo 2 anni di tournée, insomma, che ero notevolmente migliorato. Calcola, prima avevo fatto i Goonies, quindi se ti capita di aver sentito, ma che il bello. Cinesino, quello che faceva il Cinesino eri tu. Sì, Data, bravi di Baraonna, quello preparati. Quella era la mia voce prima, la mia voce dopo era Stand by Me, Ricordo di un'estate, quindi insomma, per capire che facevo. Chi eri? Protagonista Mario Cordova da piccolo, non so se questa cosa è positiva. Mario Cordova, no, grande Mario, lo saluto, la voce di Richard Gere, io facevo lui da giovane, e che è il bambino che poi racconta la storia, che parte alla ricerca. C'era River Phoenix lì giovanissimo, c'era River Phoenix giovanissimo. Sì, io facevo il protagonista, che era Gordy, che poi è quello che da grande racconta la storia. Pensa a queste cose, perché me ne sono perse anch'io. Per cui parliamo oramai di 30 anni fa, 25. E tu poi sei giovanissimo, che abbiamo detto la data del 73. Io fra l'anno prossimo faccio 40 anni di carriera. Ho il primo contributo nel 76. Per cui vai in pensione anche tu. E questo dobbiamo parlare con la signora Fornero. Che prima era dopo 30 anni si andava in pensione, poi 35. Adesso sono 42 e 4 mesi, si è aperta la finestra. Sì, ma dopo lei si è aperta. Devi far parlare di... Prendese, è un'intervista alla memoria, ad honorem a Francesco Pezzulli. Tu ti prepari vocalmente prima di un turno, prima di andare in scena? Perché qui parliamo soprattutto e anche di tecnica vocale. Perfetto, ho scoperto con te, insomma, che dietro c'è tutto uno studio, una cosa. No, noi siamo purtroppo un po' improvvisati sotto questo punto di vista. Però siccome un attore quando recita è chiamato a interpretare una cosa e fa utilizzo di tutto il bagaglio che ha. Io da piccolo ho studiato un po' il sassofono e quindi quello che ricordavo l'ho messo in pratica, perché come avranno detto gli ospiti che sono stati i tecnici, medici, foniati, nel senso, il nostro non è uno strumento a corde, perché uno parla sempre di corde vocali, ma è uno strumento a fiato, e quindi in base a io come su tu, questa così... mi fermerei un attimo dopo questa bellissima cosa, perché siamo per andare in pubblicità, ma è bello, cioè, è bello terminare anche con una frase bella, cioè questa è stata fra le 13 puntate una cosa che mi piace molto, il fatto che non è uno strumento a corda ma uno strumento a fiato, cioè tu prima devi imparare a respirare, perché per molta gente sembra vabbè, respiro perché vivo, non quindi è la così. Qualità del fiato, che è quello che poi uno usa quando suona uno strumento, nel senso come lo spirito che esce dal diaframma piuttosto che dai polmoni, insomma una serie di cose tecniche, e quello migliora. Bene, hai capito? Questo non l'ha suggerito Eleonora. Ma strano. È strano, è strano. Va bene, signori, a tra poco. Voice Anatomy. Al mio fianco sempre i Barona, pronti vocalmente a interrompere in maniera giusta questa trasmissione. Dall'altra parte invece Francesco Pezzulli, abbiamo sentito all'inizio live Titanic, adesso invece ci sentiamo un pezzo di repertorio del grande Leonardo DiCaprio, doppiato dal bravissimo Pezzulli in Wolf of Wall Street. Voglio che facciate mente locale. Vedete queste piccole scatole nere? Si chiamano telefoni. Vi metto a parte di un piccolo segreto a proposito dei telefoni. Non sanno funzionare da soli, ok? Senza di voi. Sono soltanto attrezzi di plastica. Come un M16 carico senza un marin che prema il grilletto. E nel caso del telefono, tocca a voi, a ognuno di voi. Miei agguerritissimi strattoniani, miei killer, i miei killer che non accetteranno mai un no come risposta, i miei fottuti guerrieri, che non riagganceranno il telefono fino a quando il cliente o compra o per Dio Una cosa leggera, Francesca, è stato Wolf. E come ho reagito io quando tu mi hai telefonato e mi hai detto vieni ospite in radio, io ho fatto sì. Sono senza voce per due giorni dopo la tua telefonata. Infatti devi essere presente all'altra puntata, non è questa. Un altro bellissimo film che hai fatto, che adesso poi sta uscendo il settimo capitolo, tu hai fatto Anakin Skywalker. Sì, Anakin, come si pronuncia? Anakin Skywalker. Ce l'abbiamo un pezzettino? Vai, perché non ha portato la spada laser come gli ho chiesto, perché uno lo può fare dal vivo. Vai. Tu sottovaluti il mio potere! Non provarci! Ma i Baraonna ce l'hanno la... C'è dell'effetto della spada laser. Beh, fammi farla pure questa. Che la forza sia con te. Scusa, l'hai detta questa frase? Perché non la dico? Solo per quello ho accettato. Dico, mi fate dire quella frase? Sì, allora. Che la forza sia con te. È come James Bond che non dice il mio nome è Bond, allora non lo facciamo. Ma come ti chiami? Come mi chiamo adesso? Sono sicuro che quando lo doppierò io, perché cambierà attore, io voglio farlo il provino. Non si chiamerà mai. Non dirò mai. Il prossimo forse sarà di colore. Il prossimo James Bond. Allora beh, potrebbe essere. Indiscrezioni. No, magari. Insomma, come il Papa, fra nel Papa Nero, James Bond Nero, tutto quanto così. Senti, tu hai doppiato tantissimo. Anche queste serie, parlavamo durante la pubblicità, ormai le fiction americane, le serie americane superano di gran lunga qualcuno, anche il cinema. Sono di livelli altissimi, con attori straordinari. Grandi attori. E tu hai doppiato una, secondo me, ma credo anche secondo molti estimatori delle fiction televisive, dei serial televisivi, Breaking Bad, che credo che sia la serie più bella in assoluto. Tu se non l'avete vista, sei molto bravo con l'inglese, eh? Sì. Breaking Bad, è vero. Lo sai quanta gente mi riprende qua? Una serie straordinaria. Dove faccio Jesse Pinkman, poi, che è stata la rivelazione della serie, perché all'inizio sembrava che doveva morire dopo la prima stagione, questo il giovane tossico, eccetera, e rimanere poi protagonista lui, doppiato magistralmente da De Sando. E invece resta, e come resta, ma è scritta da Shakespeare, è veramente una serie shakespeariana. Straordinaria, sono d'accordo. Io ve la consiglio vivamente. Abbiamo qualcosa dopo? Ci abbiamo Breaking Bad? Ce l'abbiamo? Grazie, Alessandro. Tu che facendo manovra hai ammazzato tua figlia, ti sei perdonato? Non dire cazzate. Ehi, Jesse, tu stai soffrendo, ma... Vuoi sapere una cosa? Sapete perché ho iniziato a venire in questo posto? Per vendervi la roba! Per me siete solo dei clienti! Sto approfittando di te! Ti sta bene la cosa? Eh? La puoi accettare? Tutti tranquilli, tu torni a casa che praticamente... Io mi preparo ai personaggi, faccio lavoro all'americana. Sì, cioè, la sera picchio mia moglie, ti fai l'LSD, ti droghi, sì, certo, per forza. Sì, proprio entrare nella parte. Soprattutto quando ho fatto Il Lupo di Wall Street. Ma lì è una follia anche quello. Ma come l'ultimo film che abbiamo avuto la fortuna di doppiare insieme, non so se se ne può parlare ancora, ma il film di Iñárritu o Inarritu. The Revenant, lo possiamo dire? Ma sì, lo hai detto tu, al limite rischi tu. Ma che cosa rischio? Che abbiamo doppiato un film meraviglioso? È un film straordinario, sì, con DiCaprio. Esatto. Il Re di Vivo, non so come si chiama quello che faccio io, sono il tuo capitano, ma non mi ricordo il nome. Ah, non fai l'orso? No, l'orso, beh, vabbè. Io chiamerò i miei amici del Trio Medusa e credo, no! ti farò sostituire, anche perché due sono anche della mia stessa squadra, per cui la maggioranza. Un'altra serie bellissima che stai facendo ancora, Walking Dead, come sei morto? Walking Dead, no, lo sto ancora tritato. No, mi possono uccidere, perché devi sapere che anche là il mio personaggio sembrava dovesse sparire, Daryl. Sì. Praticamente però ci sono i gruppi di ascolto e ogni settimana votano, e praticamente che, siccome Daryl va in giro con Harley Davidson a torso nudo e piace molto al pubblico femminile, sì, è diventato protagonista assoluto della serie. Fatti vedere te a petto nudo su una moto, vedrai che come con i capelli bagnati. Vedi che succede dall'altra parte. Francesco, bella voce e bella fossetta sul mento. Ma perché c'è la webcam? No, non c'è, però forse, beh, ti conosco, ormai sì, tu clicchi, e a parte sei anche un attore, per cui Però è vero, non ce l'ho mai fatto caso questa sparatoria sul mento. Però sì. È una 44. Abbiamo io, tu, Kirk Douglas, Douglas, John Wayne, John Travolta e Barry White. Senti, com'è cambiato il modo di doppiare nel corso della tua carriera? Cioè la voce non si è modificata tanto, c'è sempre il fresco giovanile. No, non si è, sì, comunque la mia voce è giovane. Per fortuna sì. DiCaprio c'ha una faccia che... Pure lui non invecchia mai. Pensa che mi è capitato di doppiare un attore che ha fatto Dawson Creek, non quello che facevo io. Io ho doppiato James Van Der Beek in una serie che si chiama Nashville, che sta ancora andando in onda. Doppio un attore di Dawson Creek che non ho riconosciuto, sembra mio padre. Ma dai. Però è mio coetaneo, nel senso è invecchiato in maniera diversa. Joy, ti ho cercata dappertutto. Io... Ascolta, non c'è assolutamente nulla fra Jen e me. Quello che hai visto era solo un bacio innocente. Tu non mi devi alcuna spiegazione. Sì, invece te lo assicuro, ma Joy. Ma perché mai? E poi che mi devi spiegare? Noi siamo solo amici, nient'altro. Joy, andiamo, lo sai che non è vero. E allora che cosa siamo, Dawson? Insomma, mi sono stancata di questo strano tipo di relazione. E te? È la terza volta che mi punti un'arma contro. Vuoi premere il grilletto o no? Vabbè, grazie Pezzullo. Allora senti questa aneddoto. Ero in vacanza in Brasile. Passavo vicino a una favela, la Rossignola a Rio. Mi guardi e come si conoscesse. Beh dai, là ti salutano tutti. Io sono amico di Pino. Tutti, ah, Puino. Esatto, Puino. E dentro a una baracca vedo una televisione con un cartone animato che io doppio, che doppiavo, che si chiama Inuyasha. Era doppiato. Quindi Inuyasha. Anche in Brasile c'hanno il doppiaggio. C'hanno dappertutto. Si doppia in più di 150 paesi del mondo. Solamente che noi siamo i più bravi. Questo lo dici tu? No. Siete, lo dicono gli altri che siamo bravi, ma non soltanto dal punto di vista vocale dei doppiatori, ma soprattutto dal punto di vista tecnico dei nostri tecnici del suono, dei nostri adattatori, traduttori, del fonico di mix. Sono veramente invidiati in tutto il mondo. Tu hai parlato prima, hai doppiato tante anime. Sì. Oli e Benji anche. Oli hai fatto. E Benji, bene sì. Facevo i due gemellini. Catapulta infernale! Quante volte avremmo detto dai Oli, passa quella palla! Sì. Non la passava mai! Anche perché il campo di Oli e Benji durava 3 ore e mezzo. Era prima cosa c'era la montagna, quindi tu la porta non la vedevi. Esatto. Dopo un quarto d'ora piano piano spuntava in lontananza un portiere. Erano i due gemellini, James e Jason Derrick, quelli che facevano la catapulta infernale. Senti, proprio nei cartoni animati è fondamentale proprio caratterizzare un personaggio attraverso la voce. Tu come caratterizzi quelli a cui presti la tua? Cioè, allora, cosa influence. Ho fatto un film in particolare allora io credo di caratterizzarla a volte, sì, probabilmente sì. Non ci riesco perché mio figlio mi riconosce sempre. Io ho fatto L'era glaciale, faccio uno dei due opossum. Sì, me lo so, perché visto che mi visto che ti appartiene. Mi appartiene in qualche modo. L'altro era Lee Ryan, il cantante dei Blue, che non si capisce una parola. Bravissimo. Infatti, tra le altre cose canto anche, dico I believe I can fly e poi sbatto sull'albero e mio figlio fa papà questo sei tu. Io pensavo di averla caratterizzata a livelli incredibili, quindi non lo so. Ma è tuo figlio. No, diciamo che c'è una forma di uno cerca di aderire il più possibile a quello che vedi, a volte ci riesci, a volte meno, però in linea di massima. Ma infatti il doppiaggio è quello, lo dico sempre, è una traduzione, poi può essere buona o non buona perché dipende poi dall'adattamento, dall'interpretazione che uno gli dà. Però prima insomma, tu è mi pur hai detto sempre... così scherzando che hai visto tutte le serie di Breaking Bad e solo all'ultima hai riflettuto sul fatto che fossi tu. Sì, non lo sapevo. Quindi perché cerco di non leggere. Sono riuscito a incollarmi bene. Benissimo. E questo è un po' anche il grande punto debole del nostro lavoro. Cioè, più è fatto bene un doppiaggio, e meno riconosci. Meno dovrebbe essere anche fastidioso, no? Cioè, tu, se non lo noti, sì. Vuol dire che evidentemente è una cosa spontanea e naturale. Caro Pezzulli, tu sai che ogni collega che viene qui si cimenta su una lettura importante, cioè che nulla ha a che vedere con l'interpretazione. Rodolfo Cosa Bianchi, hai preparato per me? Ora? Rodolfo e poi sempre a sorpresa. Ma non più che me gli autori, Alessia Navarro che si diverte con queste cose. È lei che devo ringraziare. Sì, devi ringraziare lei alla fine. Il nostro amico Rodolfo Bianchi si è cimentato nelle istruzioni della lavatrice, prando su come si utilizza l'assorbente interno. Fantastico. È una cosa però delicata, sempre in maniera delicata. C'è stata la Giupizzo che invece ha letto una telecronaca di Sassuolo Lazio, che ovviamente perse la Lazio, ma letto in quel modo ero felicissimo, ho avuto un orgasmo durante la lettura. Invece qui non lo so, sai che non so che cosa ti ha hanno passato adesso questo foglio. Sì. Io metterei anche una musica di sottofondo, caro Alessandro. Scusa, non possiamo fare sennò dal vivo. Ah, allora, basta, fantastico, vai. Prego. Le capsule molli devono essere assunte preferibilmente la sera per avere il massimo risultato al mattino seguente. E comunque devono essere usate il meno frequentemente possibile e per non più di 7 giorni. Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche. Effetti indesiderati comprendono reazioni allergiche che possono causare eruzioni cutanee, prurito, arrossamento della cute o urticaria, gonfiore a mani, piedi o caviglie, mal di testa e livelli alti o bassi di potassio nel sangue. A volte può avere cattiva digestione, mal di stomaco o brontolii. Vai con la nevrosi di Wolf. Può anche sentirsi gonfio, soffrire di flatulenza, avere nausea o vomito. Inoltre, quando inizia ad assumere le compresse, può provare irritazione anale e avere una lieve diarrea. Questi effetti indesiderati, normalmente, migliorano riducendo la dose che assume. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora... Stai affogando nel Titanic. Dura più di qualche giorno. O se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato, non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista. Ricordate però che nella maggior parte dei casi una dieta bilanciata e ricca di acqua e fibre può risolvere durevolmente il vostro problema. È andata. Lo sai che non so di cosa hai parlato. Cioè, provo a immaginare, io ve lo chiedo a voi, che possiamo musicare l'andata via di Pezzulli? Come la musichiamo? Diciamo che lo spettacolo continua ugualmente. Anche se lui va via. Certo, allora... anche se è una grande perdita però. Sì, ma c'è. Sono commosso. Allora, show must go on. Spaces, what we're looking for, abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Show must go on. It can be anything you want, somebody to love. Show must go on. Champions, my friend, I face it with a grin. Voice Anatomy. Bentornati a Voice Anatomy in questa puntata speciale nella quale abbiamo deciso di riproporvi alcuni degli ospiti che abbiamo avuto dall'inizio del nostro viaggio insieme fino ad oggi. Ascoltiamoci ora l'intervista al grande Alex Britti. Certo. Visto che lo stai assaporando. Questa è la mia firma o la mia condanna, non lo so. Beh, ma perché stai prendendo il caffè? Volevo cominciare un altro fatalità modo. Fatalità, hai cominciato un caffè. Questa è la chitarra magica di Britti, che lui è un chitarrista. Da quando ho scritto questa canzone nel 2003, ho fatto Sanremo, ho avuto per fortuna successo. Tu calcola, dal 2003 ogni volta che entro in un bar 7.000 caffè. Solo uno. È vero, è una quindi cosa fai che non ci uno pensi. Nella vita, mediamente, un paio di volte al giorno entri in un bar, no? Quindi dal 2003 ho 13 anni. L'anello sì, che sì, ti suona. Inizia a suonare. Lui suona mentre parla, sta suonando. Ma senti che intro di chitarra. 7.000 caffè. Yeah. Li ho già presi perché sono stanco di stare al volante. Vorrei arrivare entro sera da te. Che aspetti me. Vabbè, ma abbiamo quello nel vero. Il castello lassù. Abbiamo quello vero. È rimasto ancora. Vai. Balcone vestita di blu. A freddo non riesco, dovrei. Allora c'è Eleonora. Si chiama Bruni, sì, mi sono arrivati dei messaggi. Eleonora Bruni, il cognome, sì, eleonorabruni.it. E potete informare, ma tornerà perché questa vocalità estrema è bellissima, Alex. Sì. Stai sentendo mentre... Sentivo mentre arrivavo in macchina. Ma il fischio, e... il fischio della laringeo. Il fischio laringeo, lo conosci? Sì, sì, sì. Lo usano anche un sacco nel blues, si usa quando non hai voce, vai su, che a un certo punto non so come dirlo tecnicamente, però ai fini pratici quando lo fai è come se vai talmente su che spacchi tutto, sgrani tutto e entri dentro un canale nuovo d'aria e escono quelle note lì. Cioè, invece di arrivare al lirico alto, pulito, eccetera, lo bleffi con... Sì, sì. C'è un punto di rottura delle corde vocali dove senti aprire. Punto, sì, dove accade un'altra cosa proprio. Assolutamente sì. Me lo rifai il fischio laringeo? Sentite questo fischio laringeo, Britti. Ecco, questo è il fischio laringeo. Che te capita spessissimo di farlo poi. Sì, ma non quando canto, in privato. Vabbè, non vogliamo indagare. Invece, Alex, tu sei un grandissimo della chitarra, si sa questo. Tu hai cominciato a 8 anni a suonare, sì, questa chitarra. Chi ti ha portato questo? Io 8 anni ho iniziato proprio a prenderla sul serio, diciamo. Beh, 8 anni prende sul serio una cosa. Stressavo i miei genitori quando ne avevo 6, perché me l'hanno regalata quando ho fatto 7 anni, il compleanno. Ma è stato un regalo fortuito oppure no, volevano? No, la chiedevo tu, io. La chiedevi volevo io, tu? La chiedevo perché erano gli anni 70 a Monteverde Vecchio, come sai, c'erano, sì, ci lega muretti, questa grande... scalinate della chiesa e quant'altro, e in ogni compagnia che si rispetti c'era una chitarra. E quindi io, a me piaceva il ruolo di quello con la chitarra, quella magia. Sulla spiaggia pure c'era quello con la chitarra. C'era sempre un po'. Sì, sì, sì, sì, però. Rimorchiava meno, però. No, ma infatti il lato spiaggia non mi interessa. Non ti interessava. No, non ho mai fatto lo. Il chitarrista, quello della spiaggia, perché appunto poi era uno sfigato, era un lavoro. Sì, era quello che riusciva a formare delle coppie, ma lui che però era, esatto. E quindi mi piaceva e quindi volevo suonare. Poi iniziarono lì in parrocchia, a Piazza Rosolino Pino, iniziarono un sacerdote che faceva lezioni di chitarra. Si chiamava? Noi siamo amici. Padre Riccardo? Padre Rossi? Aspetta, mi hai fatto dimenticare. Padre Franco. Padre Franco non lo conoscevo, anche perché non suonavo la chitarra. Ma mi sa che all'epoca neanche era sacerdote ancora. È diventato adesso il preside del Santivo. Pensa, queste sono cose che legano codici di quartiere. Esatto, ci lega il quartiere, che Roma poi è Roma, sì, ma è divisa in quartieri, per cui ognuno è l'eroe di un quartiere. Per cui sia Alex che Luca Barbarossa sono di Monteverde. Sì, sui due monti, perché io stavo da una parte e lui dall'altra. Sì, Monteverde Nuovo e Monteverde Vecchio, cioè anche queste rivalità di sorta. Noi eravamo a Monteverde Vecchio e suo papà era il grande, la macelleria più buona che c'era a Monteverde. Ce ne siamo accorti. Sì, ci ha portato, ha detto, state parlando di vocalità, io ho portato questo che aiuta molto la vocalità, ha portato della carne secca meravigliosa. Infatti abbiamo tutti la bocca impastata, vorremmo bere 7.000 litri d'acqua. Acqua a gogo. Per cui è cominciato così, e poi è cominciato subito con il blues, hai cominciato subito dopo un po' di anni che mi piacevano i cantautori, quelli di quel periodo, quelli che uscivano, quindi Edoardo Bennato su tutti, poi De Gregori, Ivan Graziani, Pino Daniele, Rino Gaetano, Stefano Rosso. Però avevi un occhio sempre all'estero, in America. Ancora no. Non c'era Google, non arrivavano i dischi. Per avere un disco di B.B. King una volta, sì, dovevo andare da Revolver a Trastevere, dietro al Cinema Reale, sì, a Piazza Sannino, e dovevi aspettare 2 mesi, cioè ordinavi i dischi di importazione. Però quando arrivava la gioia? Quando arrivava era una cosa, stavi una settimana ad ascoltare sempre lo stesso disco e lo imparavi. Eh certo. E lo sapevi riconoscere, lo sapevi cantare, lo sapevi risuonare. Adesso clicchi e arriva in 2 secondi, che è un bene. Oggi c'hai 3 anni di musica dentro l'iPhone, esatto. Però non la conosci, non l'ascolti. Non la conosci, però, quello, come una bella lettera arrivata da una fidanzata che dovevi aspettare almeno una settimana per sapere se ci stavi oppure ti aveva lasciato, per cui vivevi una settimana di limbo straordinario che poteva poi arrivare al massimo del godimento oppure al massimo della disperazione. Così un disco, sì, anch'io aspettavo le colonne sonore, ma arrivavano dal Belgio o degli Stati Uniti, ma quando arrivavano e dovevi attendere, quindi non c'era tutta questa informazione, e assorbivo il rock and roll, il blues, le cose degli stranieri attraverso gli italiani, attraverso le canzoni più rockettare di Bennato. Adolescente, eri adolescente vero, sì, perché hai cominciato prestissimo, per cui ti sei affezionato e poi sei diventato supporter anche di grandissimi bluesman, da Paul Jones, poi, a Buddy Miles, sì, Billy Preston. Sì, perché poi ho iniziato a suonare con Roberto Ciotti, il primo, ecco, primo di tutti. Lo conobbi, ero il chitarrista suo, facevo la chitarra ritmica e qualche assolo, perché ero piccolo, quindi non potevo ancora. Dove stavate, al Folk Studio? Quali erano i locali? Big Mama. A Roma il Big Mama maggiormente, un po' il Dorian Gray, che adesso è l'Enoteca Ferrara in Piazza Trilussa, sempre in Trastevere. E poi c'era il St. Louis, che è sempre un altro locale che non credo ci sia ancora, il Jake and Elwood a Fiumicino. Jake and Elwood sono i Blues Brothers, poi è il loro nome. Ho cominciato a suonare nei locali con Roberto, che mi ha sdoganato. Quanti anni avevi lì? Io avevo 16 anni, 16-17. Che scuola facevi tu in quel periodo? Il liceo l'hai fatto oppure l'hai bypassato? Facevo ragioneria. Una... Dove, medici del vascello, dove stai? Ma che magari, sarebbe stato già una gioia. Una seria. No, tu sai cos'è? Io andavo al Pindemonte, ho fatto tutte le superiori al Pindemonte, quindi... Era una scuola così, per gente che aveva, che aveva altro da fare durante il giorno, troppa voglia di studiare, e quindi poi si comprimevano i pensieri e non riuscivi. Quando hai cominciato a capire che avresti fatto questo di mestiere? Subito? Ma io sì, subito. A 8 anni, all'arrivo della prima chitarra? Mi ricordo, sì, già alle elementari andavo sempre a scuola con la chitarra, suonavo, non volevo fare altro. E poi a 11, quando avevo 11 anni ci fu una delibera, la famosa delibera nell'81 credo, nell'80, delle TV private, sì, delle frequenze per le TV private. Nacquero delle TV private e ce n'era una sempre a Monteverde, a Largo Ravizza. Mm-hmm. Vicino a casa tua. Sì, vicino a casa mia. E c'era Telefantasy, si chiamava. Facevano una trasmissione che presentava Silvio Noto. Oddio. Che abitava a Monteverde Vecchio. Anche lui sì. Chissà chi lo sa. No, quella è Febo Conti. Vabbè, Vinci, c'era questo concorso su Telefantasy. Io l'ho visto, l'impresario mi ha visto e ho iniziato contratto e ho iniziato a fare i concerti in feste di piazza. Volevo sentire un altro pezzo, perché abbiamo due versioni per far capire anche il significato della voce, come cambiare da una lingua all'altra. E sentiamo prima in italiano un pezzetto di questa canzone. C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene, andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano. C'era una volta, forse erano due, c'era una mucca, un asinello e un bue, c'era una notte con una sola stella, però era grande, luminosa e bella, e se ci va magari andiamo al mare, così nell'acqua potremo sguazzare e poi nuotare, fare il morto a galla, controlleremo se la luna è ancora gialla. Sì. In che anno è uscito questo singolo? Solo una volta? 98. Nel 98. L'album era IT.pop, sì. E ha avuto un grandissimo hit pop. Sì, 300.000 copie già. Il primo album questo era, sì, se non sbaglio. Sì, ho fatto 3.40 in prima battuta. Che niente male, quando ancora si mettevano i dischi veri, belli, si riuscivano a, sì, vendere. E poi entro altri 5 anni abbiamo oltre che raddoppiato. Perché poi sai, continui a vendere, anche, sì, se non vai in classifica. Però a proposito di questo singolo, lo abbiamo anche una versione spagnola. Fammi sentire, Britti, spagnolo. Mio, sì, o di Sergio Dalma? Veo la luna, veo las estrellas, veo una nueva emoción que llega de ellas, veo la noche, veo las flores. Sembra che ho preso un destro sul labbro superiore. Veo tu cuerpo y no me lo creo, así jugando se enciende el deseo, ir de paseo, mano sobre mano, y darnos cuenta è romano, que este mundo está lejano. Questa è romana di Monteverde. He visto un día, o fue más de uno, he visto un buey, una vaquilla, un búho, he visto noches con una sola estrella, pero era grande, luminosa y bella. Y bella. Si vienes ya, el mar encontraremos, ahí en el agua los dos nadaremos, tú harás la plancha, yo te haré aguadillas, controlaremos si la luna es amarilla. Sí. Yeah. Sì, è proprio spagnolo, sì. Sì, sì, di Madrid. Di Madrid, è vero, è madrilena. Castigliano. Non è Catalogna. C'è neanche una versione in croato che fa ridere. No, non ce l'ho. Se la cerchi, diglielo. Aspetta, il cantante, non la canto io, magari, no. Si chiama Jan Plestenjak. L'hanno rifatta, fa ridere. A noi italiani, ovviamente, un suono un po' duro, no? Un po' ostico. Noi siamo molto vicini alla Spagna, proprio perché la melodia, insomma, questa certo. Liricità, eccetera. Ma dall'altra parte... No, come siamo arriva? Arriva, non lo so, duro. Che cos'è? Il croato. Attenzione. Attenzione. Questo è croato. Però adattato bene, con le rime, sì, giuste, sì, sì. Ma parla dello stesso argomento poi, hanno cambiato tema? Col croato, questo slang qui del croato non lo capisco, non lo parlo l'altro. È bellissimo, lui è un grande viaggiatore, davvero. Lui ha vissuto, non c'era mai quando uno diceva ma c'è Britti, sta fuori, sta in Olanda, sta in Inghilterra, sai, che poi lui si arma armi e bagagli veramente e fugge, non prende l'aereo. No. Dirlo. no, no. Non siamo riusciti, non sono mai riuscito fino a fare sempre l'aereo. Treno, macchine, non mi piace l'aereo. Giungere l'America? Che è la tua. Non ci sono mai andato. Che vedi? Vedi? No. Cioè, io credo che loro ti abbiano invitato. Qualcuno di questi signori che tu hai conosciuto, con cui hai condiviso dei momenti importanti. Spesso sono anche delle buffe telefonate. Continue anni, almeno un paio di volte, richieste di questa concerto. È una cosa abbastanza privata, non so se la racconti o okay, che, ma insomma ci tengo a dirlo perché. Non, perché ho paura, sono cose non razionali che non so spiegarmi. Chiunque noi ha paura dell'aereo, ti dicono l'aereo non cade mai, eccetera. È vero, perché lo devi buttare giù veramente. Io mi sono tranquillizzato facendo i voli dentro quando si poteva fare, adesso non si può più avvicinare. Però stando vicino ai piloti capisci che veramente devi veramente tu decidere di fare qualcosa di sbagliato, e invece in macchina uno pensa sempre può salvarsi eccetera, se leggi il bollettino del weekend e invece vedi che gli aerei quanti se ne alzano al giorno, cioè, beh, io ti sto a fare tutto questo discorso. Sì, però ha ragione, è una roba irrazionale, perché se vuoi scendere poi scende certo. Te via stanzia è un macello. Mi è scattata, non lo so, la paura. Forse la famiglia, i figli. L'ansia. I quali stai dedicando tutta la tua vita. Io devo cominciare a fare due cose, Alex Britti, lo dico qui, di fronte a qualche centinaio di migliaia di persone. Prendere l'aereo e fare un figlio. Ma non con me. Cioè, non posso averne. Io l'ho detto già più di una volta. Dobbiamo anche qui interromperci due secondi. Vabbè, però già una radio in cui si può chiacchierare un quarto d'ora di seguito non è male. Voice Anatomy. Bentornati signori miei a Voice Anatomy in questa puntata speciale nella quale abbiamo deciso di riproporvi alcuni degli ospiti che abbiamo avuto dall'inizio del nostro viaggio fino ad oggi. Ci ascoltiamo adesso l'intervista del 6 marzo al bravissimo regista Gabriele Mainetti, regista di Lo chiamavano Gig Robot, film che qualche settimana fa ha ricevuto ben 7 premi, 7 David di Donatello e un premio speciale del pubblico. E allora, eccoli, siamo tutto orecchi e vai Gabriele! Sono grande, 39 anni. Mannaggia. Ma dico sono grandi perché qui entra un po' l'affezione personale nei confronti di Gabriele Mainetti, che ho visto crescere e tanto, perché sarà alto 2 metri ormai. E mentre noi ci siamo fermati, perché il suo grande zio è Stefano Mainetti, che avremo ospite la prossima settimana, un grandissimo compositore di colonne sonore, grande amico e un grandissimo professionista, e Gabriele era un giovane rampante che sognava di fare questo mestiere, ma un giorno è successo di averlo qui davanti a me, ed è una gioia profonda, enorme, dal Bravo. Piccolo bambino che prendevo a botte, adesso manco mi ci avvicino. Più coraggio. No, perché è veramente molto più grande del Gig Robot che racconta al cinema. Lui è un bravissimo attore, ma un bravo regista, lo sta dimostrando con questo bellissimo film, ed è anche un compositore di colonne sonore, compositore poi può essere di colonne sonore o di musica, non è quello, è un compositore. E sei anche un produttore, ti rifà tutto da solo, tutto, Gabriele, tutto, ti rifà tutto da solo. Non recito però nel film, questo no. È importante. No, vabbè, questo sarebbe assurdo. No. Alla Charlie Chaplin, capito, che faceva tutto. Può succedere anche questo, perché tu hai fatto dei film poi anche di successo nazionale popolare, come Il cielo in una stanza, eccetera, eccetera. Stiamo bene insieme, hai fatto molte serie televisive, La Omicidi, ha lavorato con Claudio Amendola per un'altra serie, noi. Insomma... Ti sei dato un po' a destra, un po' a sinistra, fino a che hai deciso di fare il regista. No, ma io l'hai già deciso. Poi hai fatto dei corti che avevano vinto già abbastanza premi, se non sbaglio. Non voglio sbagliare. Sì, no, io in realtà ho sempre voluto fare il regista, perché quando avevo 18 anni ero andato a studiare all'ANAC, seguivo un corso di sceneggiatura che era portato avanti da Leo Benvenuti, che immagino tu conosca. Sì, insomma uno dei più grandi sceneggiatori del panorama italiano. E lì scrissi un film, 5 sceneggiature, ed ho incontrato Nicola Guaglianone, che è uno degli sceneggiatori del film, col quale ho collaborato per cui nasce la prima anni, la passione di della regia. Sì, io chiesi a papà, quando ero ragazzino, papà, mandami per favore al Sundance, alla scuola là di Robert Redford nello Utah, per studiare regia. Lui pensava che fosse un fuoco di paglia che si sarebbe insomma spento. Papà non fa l'attore, papà, diciamo, non fa l'attore, fa tutta un'altra cosa, tutta un'altra cosa. E ho detto vabbè, ok, allora molto lo dimostro, e mi sono iscritto al DAMS, dove poi ho conseguito la mia laurea in storia e critica del cinema. E poi così chiesi, mi ricordo, a Leo, dico: ma secondo te, ma se mi iscrivessi a un corso di recitazione, scriverei meglio come parlano i personaggi? Ma certo, io facevo l'attore. E allora così è nata, o per gioco, il ruolo dell'attore, però parallelamente portava avanti il percorso registico, che era quello che mi appassionava molto di più. Ed è giusto, secondo me, ricevere magari, no, quando uno mette tutta la passione in una cosa, è meglio che venga gratificato per quella che magari per quell'altra. Nel senso, io il lavoro dell'attore lo apprezzo, però mi ci sono divertito più di quanto invece mi ci sia appassionato. È stata una valvola di sfogo, insomma, l'attore. Ma sì, mi piace tantissimo, però non mi piace quanto fare il regista, no. Ti piace essere il direttore d'orchestra, ti piace suonare il pianoforte, direttore d'orchestra è sicuramente la cosa più importante. E la musica l'hai studiata in parallelo? La musica sin da quando ero ragazzino, ho studiato chitarra classica, pianoforte, chitarra elettrica, jazz, poi quando avevo 22-23 anni ho fatto un corso di composizione ad una scuola jazz. E tu sei come quegli attori, quei personaggi americani che uno dice, beh, ci avrà 60-64 anni. No, vabbè, ma sono vecchio, ormai non capito, sono più ragazzino. Ho capito, a 39 anni, Alessandro, dall'altra parte del vetro, il nostro grande tecnico del suono, insomma, ti guardava, anche se lui viene anche lui da un trascorso, poi vi parlerò della musica hardcore. Ah, dall'hardcore viene dall'hardcore, capisci? Ma l'hardcore quale? Quella da discoteca? Ma quella pesante, non so, aiutami. Allora, ti posso dire anche questa cosa molto divertente: io a 19 anni a Spazio Radio, che era un'altra radio, mettevo i dischi partendo dall'Art Trance, la Goa Trance, e finivo col Gabby Gabber Corner, che era ma la che Gabber, ora li mettevo alle 11 di sera di mettevo sera. La Gabber, sì, perché mi che divertivo. Cos'è la Gabber? È una musica che ha un beat velocissimo. Gabber. Poi mi piaceva anche Gabriele Gabber. Io pensavo Giorgio Gabber, ma comunque. No, Gabber con due B. Gabber. Era una musica tostissima. Guarda, che bella, arrivava dai 180-190 BPM. Ed era veloce, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, tutta così, tutta dritta così. Era una musica. Ma ti era impazzito quel momento? Era impazzito quel momento perché io mi ricordo. Tu sei un compositore invece di musica. Io suonavo la chitarra e tutto quanto. E poi c'erano degli amici miei che amavano la musica da. Insomma, Gabriele Manetti sta all'attore come Gabriele Manetti, compositore, poi sta alla musica. Tutto. Hardcore. L'hardcore era. Com'era il tuo gruppo, Alessandro? Come si chiamava? Noise Suppressor. Ah, vedi, infatti sì, esatto, sopprimeva il suono. Sopprimevano il suono, sì. Beh, da. Bene, abbiamo scoperto pure l'altro pure lato hardcore di Gabriele. Senti, il tuo lungometraggio, questo meraviglioso, poi tu hai vinto con il cortometraggio Tiger Boy, hai vinto il nastro d'argento nel 2013, miglior cortometraggio, finalista ai Globi d'Oro 2012 al Davide Donatello, il secondo classificato al Giffoni Film Festival. Insomma, il corto poi è stato selezionato all'Academy of Motion Picture. Per shortlist agli Oscar, sì, tra i primi 10, che poi sono quelli che devono essere selezionati. Poi si scelgono le nomination. Un passo, avevo il 50% di possibilità di entrare e non è andata. Una cinquina. Sì, ma la cosa bella era che era lo stesso anno della Grande Bellezza. E non ne hanno minimamente parlato del mio cortometraggio, chiaramente. Beh, niente, zero. Questo è come un giorno io stavo su un aereo e c'era veramente chiunque là sopra, da Berlusconi a Fiorello a Mike Bongiorno. Ho detto, se cade questo aereo, mia madre manco lo sa che sono morto, che non me nomineranno mai. Vedi, è così. No, invece sei stato messo in un angolo per questo video. Sì, ma ti stai prendendo una rivincita bellissima. Sì. Io ti vorrei chiedere di che parla Gig Robot. Perché lo chiamiamo Gig Robot, però ci riesci in poco, perché è difficile, perché io se dovessi raccontare la trama mi perderei, no perché è difficile, perché è così bello, sfaccettato, colpi di scena, amore, dramma, sogno. Sì, palleggia con un sacco di generi, esatto. Non ci siamo fatti mancare nulla. La gente che ha visto il trailer e che ha visto anche il film, dopo si è chiarito che non è un film americano, vorrei fare un film della Marvel, no, non c'entra niente, sono rimasto veramente affascinato dal primo giorno del trailer. E poi ho letto dopo il tuo nome. Questa è la cosa bella. Ah, ho detto, questa era figa. Sì, non ho guardato l'occhio benevolo di un amico, di uno pseudo zio che vede crescere il proprio amico di quartiere o parente, eccetera. No, ho visto questo e dico, ma vedi che bello, che botta. Che ho visto. Poi sono andato su Ivid, eccetera, a vedere tutti gli altri trailer che c'erano. È stata emozionante. Ma è emozionante la scelta musicale, cioè di rifare. Poi con sei sempre il compositore tu insieme a Michele Braga. Insieme a Michele Braga della colonna sonora del film, ma c'è la versione lounge, credo. Cioè, non voglio chiamare. Ballad. Ma ballad, scusami. Ballad è giusta. Una ballad di Gig Robot d'acciaio e ce l'abbiamo scaricata, vero? scaricata pagando, no, no, no, è fondamentale, no, scaricata rubata, no, che rubata, sicuramente già, no, no, no, guarda là che fanno dalla regia, ma che sciamatta, oh. No, no, no, comprata da, dalle piattaforme digitali, vai. Cantata da Claudio Santamaria. Sì, bravissimo. Sì, sì, corri ragazzo laggiù. Non lo dimentichiamo anche con un Rino Gaetano, Gaetano perfetto. Ma è pazzesco. Sentitela che bella, già è così il film. Corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità. Corri e va. Bellissima. Per la terra vola e va. Tra le stelle, tu che puoi diventare G. Gigba, cuore acciaio, Gigba, bellissimo. Cuore acciaio, cuore di un ragazzo che... Bene, anche questa puntata di Voice Anatomy finisce qui, in questa giornata di festa dei lavoratori. Noi ci risentiamo domenica 8 maggio, come sempre, con grandi nuovi protagonisti della voce. Ciao!